Ah, cominciamo queste sono le fasi preliminari. Mm-hmm. No, questo è il podcast solo. Devo mettere il titolo al cosa che non mi ricordo qual è. Ah, sarà Unstructured Heroes comunque, alla fine. Okay. Quelli del voi del podcast che ci hanno seguito sicuramente. E hanno visto che c'è stata questa diatriba. Sicuramente. Vale andare. No, in realtà no, effettivamente se voi siete del podcast, probabilmente non ci avete seguito in diretta, quindi scemo io. Sicuramente, no, ma vi vogliamo bene lo stesso. Tanto titolo francese di nuovo. Devo mettere quello francese? Certo. Ho detto che a voi do solo titoli francesi e agli altri do solo titoli in inglese. Mamma mia. Anche questa umiliazione. Così imparate, babbuini che non siete altro. Allora... No, provarci, non mi piace così. Vez, allora cos'è? Vorrei sapere per voi del podcast, e per ora lo sceneggiatore, master o come cazzo vuoi che si chiami, ci ha chiesto quale animale ci rappresenta di più per ora tra e un ippopotamo. Lo scarabeo sterquale. Non so se è uno spoiler perché... Va bene, ho fatto tutte le schede. Ok, ci sono. Basta solo che venga sul caffè e siamo pronti. Oh. Sai qual è il titolo della puntata, Arci? Sono il titolo francese. Baguette, fraternite. Posso mettere baguette, Zichi? Perché è francese il titolo, Salla? Sei sicuro che si scriva così? No. No, secondo me non si scrive così, Psychic. Sicuro? Guarda su internet. Guarda su internet. Cerca Psychic su internet. No, vai sul traduttore, scrivi psichico. Psichica. State facendo voi? Sto facendo io. Psychic, P-S-I-C-I-C. C-H? C-H-I-C, no, scherzo. Sarà con la Q, adesso aspetta però. Sto guardando, Vez. Acceso. Mamma mia, 2 minuti e 55 di vuoto per il podcast. Così. Grazie, aveva ragione il digno. Bravo. Ormai è un po'. Ah, la scritta così, Salla? Sì. Ma la traduzione è psichica, però, vero? Battaglia psichica, Cazzo ne so, è lui il master. O è psichico? Sì, vabbè. È uguale. Va bene. Cercavo una traduzione francese di battaglia mentale e non è così semplice. Sì, invece, guarda, te lo dico subito, battaglia... Sì, ho capito, ma non puoi tradurre letteralmente. Battaglia mentale, perfetto. Allora. Poi perché battaglia mentale? Vivendo. Ah, ma è della sessione di oggi. Ah, pensavo fosse quella di ieri. Quella di ieri come l'hanno chiamata? Ieri non abbiamo giocato. Ieri inteso l'ultima sessione. Benvenuti in diretta! Siete su, a sorpresa, non così tanto, a Structured Heroes. I was little, I used to dream that, had a cape and I was fly. Rescue my friends. Burning buildings, no one would ever die. Get it? Costumes made fast. Superpowers pass. Non c'è Salla? Che diretta. Non senti? Certo che lo senti, la musica. Vuole sentire? Stava lamentando. Ah, ma forse è per il rutto che glielo fa per dentro. Ah. Bene. Ho la coda paura. Ah, ti è arrivato il rotto nell'orecchio, Sal. Hai tossito sul microfono. Allora, benvenuti al nono episodio di A Structure Heroes. Il titolo è una lingua Sheo's Death. La lingua di Mordor. E Batai Psychic, direi. Ma perché è francese poi? Che cazzo lo so, perché lui è in Francia e c'ha delle influenze sbagliate e deviate. Basta che non incontriamo dei francesi. Tutti i titoli dei vostri episodi saranno in francese, tutti i titoli degli episodi degli altri saranno in inglese. Perché? Perché noi ci odi di più? Per distinguere. Parla, Kat, e Salla? Dimmi. Ok. Grande, sto loop è bellissimo. Va bene, comunque. Va bene, sarà il check audio. E allora, episodio. Dal momento non ci sono né Giulio né Sceo, non ci sarà Giulio, pensiamo di sì. Giulio 40 minuti fa ha scritto arrivo tra una decina di minuti. Ah, sono giù. Giulio è qua, ha fatto quel ritardo strategico che bastava per non essere lui il master in questa sessione. Cioè, abbiamo fatto il conteggio e abbiamo palesato la sua preparazione. Sì, perché praticamente abbiamo fatto questo sondaggio per vedere quale sarebbe stata la puntata da giocare oggi, se la Structured Heroes o Petrolieri Spaziali, e il voto era tra virgolette anonimo, però io e Kat abbiamo votato Star Wars, Sala non l'ha votato perché... non potevo. Non poteva perché ha fatto lui, cioè poteva volendo, ma vabbè. No, su Twitter non si può votare. Va bene, su Twitter non puoi votare al tuo sondaggio, e vabbè, insomma, questa è la regola, stai un po' di spiaca. E quindi siamo un po' contati, abbiamo visto che Giulio, che è il master di Star Wars, ha votato per l'altra campagna e quindi abbiamo capito che forse era meglio fare. Per la vostra felicità, sì, ma stava solo il voto di Giulio, effettivamente. Sì, ma vabbè. Sono Giulio? No, sei Giulio. Vabbè. Tra l'altro, l'articolo di Abstracted Heroes è già online. Non so se Sal ha fatto il podcast. Sì, ma c'è un errore che devo correggere. Vabbè, adesso voi... Non sta laggando Sal oggi? No, vabbè. Non so se avete visto... Così, esplosioni. Su un gruppo di dubstep. Cosa? Dovevamo fare della dubstep con le registrazioni laggose di Sal. Comunque, vabbè, tutti in settimana vi arriveranno tutti gli articoli, presumibilmente. Beh, in realtà manca solo quello di... No, c'è quello di Abstracted Heroes, c'è già, però non l'ho messo su Facebook, semplicemente. Carica la solita storia dell'altra volta, verso 5:15 vi devo cominciare a finire. Manca solo quello di nuovo di Zeros. Ok. Va bene. Quindi, mentre il riassunto della scorsa sessione. No. Sì. No. Sì. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Sono venuto giusto in tempo di riassunto. Riesco. No, tranquillo, lo sai tu il master. Raga, fanculo. Allora, vi faccio giocare in una dimensione parallela Urban Heroes in cui però siete i vostri personaggi Star Wars. Scusa, abbiamo le schede. E Giulio usa il mio personaggio. La punizione suprema. L'ultima sessione iniziava che noi eravamo pronti per investire gli zombie. E tutti gli spareranno. No, quella era quella prima. Esatto. Quella è quella che devo riassumere, no? Sì, riassumi la puntata, dai. Vediamo quanto sei preparato. Allora, era il 1900. No, dovevamo investire gli zombie, ma alla fine abbiamo optato, con grande nostra gioia, di far sacrificare i tuoi cloni. Sì. E di mandarli a farsi sbranare vivi. Ci siamo fermati, abbiamo assistito che li sbranassero e abbiamo continuato a tirare dritto, portandomi... Buon piano. Buon piano. Giusto. Sì, ma quello non era ancora arrivato e quindi era intervenuto. E quindi abbiamo portato a compimento la missione, ottenendo una gamba di plastica per Sceo. Che per esatto. La nostra rovina. Esatto. Quando fa esatto, sì. Per 300.000 lire. Esatto, 30.000 lire l'avrebbe fatta meglio. E gli abbiamo montato la gamba nuova e alla fine quello ha scelto la gamba veloce. Non so, rotto i coglioni un per... Un casino. Vabbè, alla fine ha scelto una gamba a forma di braccio. Ma tosta che scende in questo momento è 20 cm più corto del normale, tutto esatto. Delle gambe, quindi è bellissimo. E dopodiché, i piedi palmati. Avendo risolto la questione Shea, abbiamo detto: come sbattere Giulio fuori dalla compagnia? Facciamo un ritrovo a casa di Ema. E... No, era Giulio che aveva sbattuto fuori. Sì, come buttare. Esatto. E quindi abbiamo, mentre parlavamo di ciò, Giulio si è lanciato dalla finestra dentro la casa per interromperci. No! Ecco come adesso. Yax a casa di Ema. Sì, esatto. Eravamo a casa di Ema. Poi è arrivato Yak, esatto, col portale, dicendoci che è riuscito a fuggire da professore perché il professore voleva usarlo. Ma Yak, non vedete i gesti in diretta? Forse non in diretta li vedete, portate petrolieri di merda, però le portano, li vedete su quei partiti medici. E allora, mentre appena abbiamo scoperto di avere una cimice in casa, abbiamo cominciato a urlare a morte al professore. Nella braccio gamba di Sheo. Adesso sarà interessante cercarla e rimuoverla. Sì, sì, hai offerto l'assalto solo per quello. È arrivata Claudia con due tizi armati, per il classico scontro di mani contro pistole. Esatto. No, e io ci terrei 5 contro 2. Ci terrei a sottolineare... Sì, ma normalmente anche se 5 contro 2 tipo muoio. Ci terrei a sottolineare la frase di Sheo. E dopo il mio attacco psichico e il tizio che fa cadere la pistola per terra, ha avuto il coraggio di dire: cosa c'è intorno che posso prendere? C'è un'arma in zona. Era anche l'unico arma. No, ma Sheo aveva tra l'altro la pistola. È venuto Giulio in questa trasmissione. Io vorrei far notare come Kata abbia cercato l'altra volta di sparare alla pistola dell'avversario. No, no, noto colpo. D'altra parte, se uno ha OP internet che lo rende OP, cioè è anche giusto che metta a servizio queste capacità della squadra. Ecco. E siamo rimasti siamo riusciti ad eliminarne uno che è disarmato. Sì, cioè fuori gioco. Io ne ho tesserato uno a terra. Uno preso fuoco. È la prima volta che ho colpito qualcuno. Giusto, Giulio ha fatto vedere il suo potere. Sì. E poi è successa la cosa principale: il coming out. Coming out. E ora c'è la decisione che, siccome il potere, ragazzi, di Giulio è troppo forte, va ucciso. Cazzo, potevi chiamarla coming out questa sessione. Chiamarsi quella prima. In verità, dirò che lo Xiaomi ha un problema ancora maggiore rispetto al Samsung Galaxy. E siamo rimasti durante il fight. E Claudia si è teletrasportata per stuprare Kat. Sì, Claudia per la felicità di Kat. Sì, quindi praticamente la faccia di Kat sono rimaste solo le orecchie, giusto? Schivato, esatto, un buco, una ciambella. No, c'è rimasto ancora tutto, solo che è scosso. È così. Vabbè, direi che giocate voi l'attacco all'astronave e poi dopo io e Arci ci aggiungiamo. Ah no, non era così. Vabbè. Io l'ho portata la roba dietro, però... ho fatto quei 40 minuti di ritardo. Però ha preso fuoco sull'auto, non so come mai. No. Giulio, quando hai votato per... Ho fatto 6 account Twitter per votare. Comunque finite in pari. Se avessi avuto tempo l'avrei fatto, ma no. No, ma per me è uguale, sono quelle 20 persone che vogliono giocare a Urban Heroes, non io. No, per me non era uguale, io ho detto però che se tu avevi problemi, vabbè, avremmo potuto fare la sessione, va bene. Visto che tu hai detto che... Tocca a Vez. È bello, il nostro punizione è molto sano e... No, non tocca a Vez. Sì, te lo dico io che tocca a Vez. Allora tocca a Vez. Io ho appena zerato uno, e ce n'è uno a terra e c'è Claudia che sta spazzando via. Sì, appena Kat muore, la cosa che ti preoccupa di più adesso è la fiammata di Giulio continua contro la casa di Ema. Che dovevi preoccupare, Vez? Avete avuto la bicicletta? È a 2 metri e i mobili di Ema stanno cominciando a... Allora, sicuramente mi sposto. Mi sposto. Magari tipo dietro Giulio, non so lui in che posizione rispetto a Claudia. E poi... Io sono, mi sa, davanti, perché Claudia ha schivato la fiammata a super velocità ed è andata dietro dove c'è il cazzo. Non è un'immagine. E poi lei attiverei veloce, un super clone a questo punto. No, per ora è super veloce. Il pugno che mi ha dato era normale. Poi magari altre cose. E a questo punto attivo un clone, approfitto per attivare un clone. Ok. Cioè, sono a distanza più o meno di sicurezza? Dipende. Merda, ma voi potete fare una combo allucinante. Cioè, Vez attiva 6 cloni, tu gli dai fuoco e si lanciano bruciati. cuffie da addosso alle persone. È barata. Oppure i cloni potrebbero tenere fermo il bersaglio e gli appicchiare tranquillamente fuori. No, perché lui puoi mandarli dove vuoi. Ah, dici, poi non sì, cioè, tu li metti li dentro una casa, non c'è una casa. Dipende cosa intendi per al sicuro, nel senso che Giulio ha un cono largo così in una casa che in una camera che più o meno non è grandissima e la roba di legno brucia. Sì. Tendenzialmente brutto. Vabbè, se posso andare, vado tipo all'ingresso. Non so, hai presente che ha due ingressi là? Mi metto sì. Di fianco alla cucina, così lì nel caso posso prendere dell'acqua se necessario. Di fianco al lavabo, praticamente. Vabbè. C'è un ingresso dietro, ti ricordi? No, non sono mai stato a casa di Emma, sto improvvisando. Bello, fai una location che. Non sei mai stato a casa di Emma? No. Ah, come no? Lo saprà lui, rega, no? Cazzo, allora ve lo devo spiegare io come la cosa. No, ma se ne invento Salla. Ma sì, quando facevi il ninja ci siamo stati tipo una volta o due. In quella campagna in cui io ero il druido. Ma voi siete stati giù alla luna? Ah, giù, siamo su. Siamo no, su. No, siamo giù, siamo giù, siamo giù. No, eravamo giù. Giù. È una stanza giù. Tutto. Appunto. Allora non ho capito un cazzo, perché siamo nella lumaca? Perché mi ci hai invitato lì. Perché giusto. È una roba privata. Per fare cose in camuffa. Va bene, allora... siamo... E in quale stanza siamo? Nella cucina siamo? Nella cucina. Voi siete dietro al tavolo, Kat è davanti... Cioè, il tavolo. Ho capito, allora... Siete tutti stretti, è per quello che dico, non è sicuro. Quella cucina di merda che è minuscola. Sì, sì. Sì, minchia, no? Siamo morti. Sì. Vabbè, allora vado dall'ingresso. Non Salla, però lì non ci stiamo neanche fisicamente. E attivo il clone. Tanto vediamo. No, ma noi più Claudia più due uomini lì dentro a saltare uno sull'altro. Allora, fatto, allora no, infatti io... non ho chiesto di fargli una foto della sua. Cioè, eravamo tipo tutti in corpo a corpo. Io facevo così e colpivo chi volevo anche senza muovere. No, è per quello che ho detto a Giulio l'altra volta quando sparava a fuoco a chi pensava di... No, perché in realtà è anche la cucina su non è grandissima, però non è così stretta da morire. No, ma lì sei tutti corpo a corpo, vedi, uno schiaffo, becco Claudio, becco Kat, li becco l'uomo, li becco Giulio, cioè, prendiamo tutti fuoco. Sì, sì, praticamente sì. Sì, siamo tutti a portata. Sì. Avete voluto che usassi il mio potere? Va bene, io sono dall'ingresso e attivo il clone. Non è che adesso improvvisamente vi siete accorti che non è conveniente. Ah, tu ridi, ma è cioè, poca che te lì dentro. No, perché io adesso prendo il secondo potere. Scusa, perché ha usato, ha giocato. Arci e Katta. Io do il colpo di grazia a Katta per non farlo soffrire. Grazie. Giusto. No, sì. Vado su Claudia. Sì. Claudia praticamente è sul tavolo e sta picchiando Katta dal tavolo. E metallo. Volendo io posso dare una spallata a Claudia e lanciarla in una zona di fuoco come idea, cioè provare basta a spingerla verso il cono di Giulio. Certo, anzi c'è una boccia tipo di alcol lì da... No, vabbè, faccio un D6 di fisico. Un D8. Posso dare un D8? Sì. Giulio mi dà un D8 e faccio 8 così. 6. Dai una spallata a Claudia. Mm-hmm. E aia, la spalla. No, un po' maluccio. Claudia non fa una piega e tu ti fai un po' male alla spalla, cioè nel senso senti è un po' indolenzita. Come se avessi colpito qualcosa di duro. Sì, tipo un muro. Se avessi colpito un muro, sì. Ok, ma anche super resistente. No. Katta. Addio Katta. Spara. Sparo. Pensavo più che altro di darmi la gamba e di curarmi in realtà. Katta comincia a perdere un po' i capelli. Già. Beh, sono sempre stato sempre. No, 10 sì. Dalla sua età ci sta bene. La prossima campagna di dungeon farà il chierico, che tanto è un ruolo che si addice. L'ho già fatto. Dopo di me stanno a loro, sono l'ultimo io. No, dopo no. Di te sta Giulio e poi sta Claudia. Ok. E di loro rimane, cioè il tizio che sta bruciando. Un tizio sta bruciando, un tizio è per terra che si tiene la gamba e c'è Claudia. Ok. Ah, solo una domandina. Nel momento in cui do la spallata a Claudia, mi sembra tipo che ho scazzato io a colpirla. O che lei è particolarmente resistente, o mi viene, cioè, o capisco che non è. Che la mia spallata era ben messa ed è lei che ha. La spallata era ben messa, o lei è veramente grossa sotto, anche se non lo dà vedere, oppure. Boh. quindi è probabile che sia un potere. Ok. Riesco ad arrivare a uscire dalla stanza ad arrivare nel cortile interno? E no, perché sulla porta hai un cono di fiamme, due tizi a terra, Sceo e Claudio. Ah, c'è Giulio che sta cercando di bruciare la via di fuga. Sì, Giulio ancora così. Allora, ok, allora riesco ad andare. Riesco a fuggire nella stanza da letto. No, è la stessa cosa. Cioè, c'è il cono di Giulio che è sulla porta. Perché voleva colpire loro. Loro erano sulla porta e quindi. Ah, ma come fatto a passare? Perché ero dietro Giulio? No, ne sono io. Ma lì in mezzo non c'è un tavolo che caga il cazzo, tipo. Su quel tavolo c'è Giulia che mi sta menando. Claudio. Giulia, cara. C'è Giulio che mi sta menando. C'è Giulio che mi sta menando. Però la fiamma è rivolta verso la porta d'ingresso, se ho capito bene. Ecco, dalla parte opposta non c'è la porta per andare in camera da letto. No, c'è un bagno. Io c'ho dei coltelli. Il bagno è dalla stessa direzione. Ah, sì, puoi andare verso la camera, che è dove immagino sia Dezzi, in corridoio. Ah, sì, sì, io, cioè, nel senso, non è che mi vado a mettere nel cono di fuoco di Giulio. Se posso, vado dalla porta d'ingresso, ma se Giulio sta sparando lì, vado dall'altra parte. Eh sì, perché Giulio ha sparato ai tizi appena sono entrati. E anda alla porta d'ingresso. Alla porta d'ingresso. Ok, ha senso. Sì, va bene, allora siamo dietro. Allora raggiungo Vez nella stanza da letto e... Ma non è tipo svenuto. No, però ho beccato 40 danni in faccia, quindi adesso provo a curarmeli. Ok, ci sta. Is it the role? Esatto. Giulio, io giro la fiamma per investire il tizio. Sì. Grande. Oh. Giulio gira la fiamma per colpire cosa? Quello che ho già colpito. Ah, ok. Fai i tiri danni. Le locazioni, la locazione. Prima i danni, prima la locazione. Prima locazione 5 grande braccio destro. Improvvisamente direi che possiamo andare avanti. Ah, beh, magari perde. Ma 40. Se è ammalata la tipa che deve allenare. Ok, vedi che lui urla di dolore e continua a bruciare. Oh, cazzo, finalmente. Sulla sala c'è una piccola cosa importante che attira la nostra attenzione, come una tipa di allenare. Vedi che siamo in diretta. Ma noi salutiamo la tipa che devi allenare. Basta, devi allenarla sul serio. Se volete essere allenati da vabbè, ma siete allenati da Arci. Non le vedete forse se siete nel podcast, ma sono delle virgolette. Basta. Ma scusa, non ho capito una cosa. Chi è che ha preso fuoco? Arci non fa il personal trainer, non ha il diploma da personal trainer. Quello che ha preso la scuola di Rocco. Sì. Coglioncelli. Chi ha preso fuoco? Ma hai comprato una telecamera? Anche un club, Arci. Hai messo basta. Anche una telecamera. Hai messo una telecamera lì sotto? Sì, anche una stalla. Ma è qua che fa che alleni? È brother workout. Ma finito questo off topic. Ma che alleni, porta anche un asciugamano. Ma... è per quello che non hai messo il riscaldamento. Tanto vabbè, cioè, vado giù quando avete finito. Allora intanto vado giù a allenarmi un po'. A riscaldarmi un po'. Va bene, siamo metallic. E quante volte al giorno l'alleni? Cazzo, ridi. Sembrate i bambini dell'asilo qui di CKPP e vanno avanti per 2 ore a ridere. Hai detto cazzo? niente. Ma fai anche... Aspetta, ho un'ultima domanda. Fai anche pagare per allenare? Oh, che ridere! È un professionista? Oddio, va bene. Immagini Arci con la linea rossa, tipo ciao. Contrai il muscolo. Vuoi essere allenato? Va bene. Dicevo, Giulio allora ha fatto la sua azione. Claudia. Sto scherzando, alle 4 abbiamo finito tutto qua. Claudia ti dà 2 smartellate, Arci. A me? Sei rimasto solo tu. Smartella, come sei rimasto solo io, Rega? Peccato è morto, tu dove sei? Schifo. Io sono un clone nudo che mi parla. Cosa mi stai dando? Smartellate vuol dire che è un martello o no, due schiaffi da... dai pugni. Schivi o pari? Schivo. Fatto box. Para. È vero, eh? Come no? Ah, non c'è la box. C'è il box o no? No, l'ho fatta prima. Non c'è la scheda. Vuol dire non c'ho la scheda? Cioè, non è tra le c'è cioè, scritto. Quelle di box. No, raga, non l'ho messa, non l'ho messo, perché Sala mi ha detto che non puoi mettere tutti gli sport. Che non hai tutti questi punti a devo mettere... Cosa devo mettere? Devo fare un di 6? Devi schivare, sì. Sì, dai. 4. Grande! Anche lei ha fatto 4. Allora, ti arrivano 3 pugni. Ah, non schivo con 4. No. Uno ti colpisce all'8. Uno ti colpisce al 6 e uno ti colpisce alla testa. C'è chi ne sta guardando? Allora, il primo ti fa 20 buone. Danni. Aspetta, no, fermo. 8, 6, testa. 20 danni, 8. 20 danni alla gamba sinistra. 10, 6. Poi cosa ha detto? 6? Cosa, fermo? 10, 6. Ok. E 30, 1. Sì, dai, Salla! La gamba tipo e poi prova di fatica. Adesso Rega mi faccio installare il fucile d'assalto al posto delle palle. Tocca a te. A me? Mm-hmm. E mando il clone addosso a Claudia. Tira. Ti dico fermala, cioè bloccala. Ammazzala, dai, cosa bloccala? Uccidila, come stuprala. Fa, come fa a ucciderla? A morsi? Le morde il collo, gli stacca via... Tipo il mostro strada. Della palude ormai, quel coso. Avrà... le chele... Uno! Facci tu. Ma sei scemo, hai visto come picchia? E vabbè, allora... Sta musichetta della mia morte. Vabbè, questo è andato, ne provo a fare un altro di clone. Adesso prendo io un punto da fatica, giusto? Due cose, no? Sì. Cerco di morderla e faccio... Sai, sono in mezzo! Chi ha la matita mia? Salla. Arci? Sì. Fa la Salla. Cioè, guarda lei. L'ordine glielo devo dare il prossimo, giusto? No, daglielo. Bloccala tu! Che tira? Non ti ha ancora mai visto, Salla. 6! Ok, dopo ci vado. Vabbè, ci sta. Pezzo, non hai visto che stai voi. Eccolo! non lo vedete su Facebook e in podcast, vabbè. Ma... Dopo Betsy, tocca? Tocca a Arci e Katta. Ah no, Sheo! Sheo oh. Prende la pistola e... Si spara. E prova a sparare a una delle due guardie, quella a terra. No, a Claudia! Sì, finisci! A Claudia! Finisci. Salla? Mira la testa. Vuole la spara a te dopo. Colpito la testa? Ha messo Sheo in modalità Terminator. Sì, esatto. Cioè, one shot, Sheo spara in testa la guardia che ha di fronte. Svenuto. Ah, ok. Rimane una sola guardia che sta bruciando Claudia. E la guardia che sta bruciando Claudia? No. E notate tutti che il fuoco è un po' sulla parete. Ah, questo è l'ultimo dei miei problemi. Comunque... Sì, forse Arci e Katta. Katta c'è una mano, eh. Mi sta ammazzando questa qua. Io sono... Come c'è cioè, la scena è alimentato i pugni, ma io sono in piedi, no? Tirate i pugni... Sì, lei praticamente è... tu hai provato... Lei è sul tavolo. Tu hai provato a dare una spallata. L'hai ma lei, lei è sul tavolo, in piedi sul tavolo? Sì. Ed è ancora in piedi sul tavolo? Sì, ti ha dato tipo dei calci in faccia e... Ti ha dato... Però se io ribalto il tavolo su cui lei è in piedi, finisce nelle fiamme, la puttana. E puoi provare a ribaltarlo per tirarla verso le fiamme, sì. E io intanto urlo che ho bisogno di una mano. Uh-huh. E... Ho due piedi palmati. Provo a ribaltare il tavolo con lei sopra, ma... Vai. È uno stacco da terra, mezzo stacco da terra che proprio faccio agile. Tira. Tira di 8. Tira di 8, E uso un punto psiche. 8. Ok. Ok. E fai la prova di psiche? Quindi uso il di 6? 6. Wow. Va bene. E ok, ribalti il tavolo. Claudia finisce verso il cono di fiamme di Giulio. Catta. Intanto dico, uccidetela questa troia perché è fortissima e barata. Barata. Faccio capolino, sparo Claudia e ritorno a piangere per il cartone che mi ha dato prima nella stanza. Cosa? Con la pistola che ho preso al tipo. Spari a Claudia, vai, tira. Il colpo come mio rimbalza sulla sua carne durissima. Oh! Oh! 7 con un di 6. Colpito? Tira la locazione? Cazzo, ti prego. Con piacere. 1! 3. Busto. Busto, no, tira i danni. Una volta. Cosa fa? Un di 6? No. Semiautomatica, no, un di 6 per 20. Giusto? Sì. 5, bravo! 100 danni al busto? Sì. Ok. Oh, più quelli che ha preso da fuoco. Non ancora preso. Perché ho spento il cellulare. Ora brutto. Però ho visto tanti miei amici nel corridoio. Ok, Giulio, tocca a te. Cono verso, non so se posso prendersi alla guardia che è Claudio. Sì, puoi prendersi alla guardia che è Claudio. Claudia c'è, è già dentro il tuo cono in teoria, no? È Salla? Sì, però il danno glielo fa se continua a spararli. Continuo a sparare in quella zona. Ok, tiro i danni. Tiro prima per la guardia. I danni sono separati o tiro una volta? E ma boh, tira separati. Quanto fai il danno, Giulio? Alla guardia, locazione 8. 60 danni. Ok, la guardia sta completamente bruciando, anche il busto e le altre gambe. Claudia, locazione 2. Bravo! 5, Giulio, almeno 5. Usa un punto psiche, aumenta il danno. Non usa, credo, un punto possanza. Punto volontà. 50. Sì! 50. Penso che lei non abbia delle protezioni. E la maglia di Claudia brucia. Tocca a Claudia. Che c'ha il tavolo lì davanti, eh? Si toglie la maglia che ormai sta bruciando. Sarà tutta in fiamme. Sotto la maglia è in reggiseno e vedete però tipo dei peli, come se fosse una sorta di felino. Uomo. di felino. Sì. Non vedete sangue che esce né bruciature. Buono. Quindi il proiettile si è fermato contro la pelle. Non lo vedi. Quindi non vedi ferite. Si volta verso Giulio e gli tira una sagagnata, anzi due sagagnate. Solo tre, perché tre a me? 4 a te ti aveva tirato. Solo che una ti ha mancato. Giulio, schivi pari? Ah, quindi con 4 1 avevo schivato. Sì. Quindi pareggio schivo. No, ha mancato lei, ha fatto 1 col dado. Ah, ok, quindi non devo fare di più io, il pareggio non salva. No. Non è come D&D, ok. No, il pareggio salva se pari. Ah, ok. Giulio? Se dispari no. Io schivo. Mi dispiace non poter rispondere, ignoro. Ignoro. No, volevo. Ignoro. Volevo prendere dominio extra, però. Vabbè. Per attivarlo su un momento. 5. Schivato. Prendi solo un pugno e lo prendi al 5. Braccio destro. Fa 10 danni. Solo che è quello della. Oh, 10 danni. Sì, però lei fa sempre dei grandi danni alla testa. O è Salla che è sculato, o ha delle buzz particolari per uccidere. No, Salla che è sculato. Tocca a Vez. Allora, il mio clone andrà a pescare sta Claudia. a bloccarla. Però le fiamme, e sì. Con l'altro gli dico, all'altro che prima è sto ribelle, gli dico aiutami a prendere dell'acqua, che proviamo ad andare nel bagno, riempire un secchio, se ci sarà, e per poi buttarla sulla parete in fiamme, immagino. Tira. Sai che Claudia è vicino al cono di Giulio? Ok, vabbè. Vabbè. La buca sulla parete, tanto. Tira per dare il comando al tizio. Sì. 3. Ok, viene con te. E tira per quello che prova a bloccare Claudia. Sì. Devo tirare un di 6. Su fisico. Io ho usato un po' di... Si schianta su Claudia, ma non riesce a trattenerla. Toccato per anche curarti, no? Ho provato, ma ha fatto. Tocca a Darci e Catta. Cosa? Tocca a me, vero? In questo momento avrei potuto prendere dominio evoluto, radiazioni, ogni volta che mi colpiva. Raga, Claudio in corpo a corpo non si abbatte. Siamo, diciamo, in una cucina. Salla? Gli ho ribaltato il tavolo addosso a lei, no? Mm-hmm. Cioè io c'ho il tavolo davanti a me. Sì. Con in mezzo alle fiamme, con Claudia che si infiamma. Mm-hmm. Il punto in cui Kat le ha sparato non risulta, non sanguina, e lei non appare leggermente ferita. No. Alla mia vista. No. Neanche un po' affaticata, debilitata, ok. No. Allora... Tu hai raccolto la pistola del tizio per terra, vero? E la sto usando. La sto usando in vano. Apro il gas, fuggia. E vogliamo tutti il suicidio. No, faccio così. C'è una, per curiosità, un coltello, tipo un cassetto con i coltelli, sì, il cassetto delle posate. Sicuro. C'è sicuro. Prendo un coltello. E mi uccido. No. L'unica è provare a toccarla. Io in mezzo alle fiamme. Va bene, da un piede. Se tieni su i cosi. Io ho altri 3 turni. Poi. No, aspetta, invece che prendere un coltello, tipo apro una credenza, quella tipo delle pentole, mm-hmm. E le lancio proprio di violenza una pentola d'acciaio, in testa possibilmente, cioè lancio la padella, vai, una pentola di quelle, cosa devo tirare? Di 6? Riflessi. 6? Colpita. Locazione. Di 8. 3. Ok, busto. Busto. Dado? Di 4. 4. Ok. Colpisce il busto. No, aspetta, ho tirato io 4. Sto scherzando. 1. Okay. 1. Colpisce il busto e cade per terra. Claudia non si è neanche voltata. Tocca Catta. Ah, cade per terra la pentola. Sì, la pentola. Ci mancava che rimanesse attaccata al busto. Io, cosa faccio? Non puoi mirare tu la testa, tipo, invece che sparare taglio. Mirare cosa c'è? Cioè, tu dici che al busto... Al busto abbiamo visto che non funziona. Non funziona altre parti del corpo. Magari la testa è un punto debole, non lo so. Se devi sparare, non sparerei a cazzo, che magari rischi di ricolpire il busto e quindi buttare nel cesso il turno, delle due miri. Perché cioè l'aspetto animalesco finisce dal busto o prosegue anche per il resto del corpo? L'aspetto felino. Allora, sotto nei pantaloni non vedete. No, vedete chiaro. Dal busto in su, sì, è solo il busto. Cioè, la faccia è umana però, non è sì, felino. La umana, sì. Faccia umana. Vai, prova a mirarla in testa. Vai. però poi questo io potrei anche dirvelo che comunque c'è, cioè, non è che la mutazione necessariamente la difficoltà, cioè, tipo io piedi palmati, però non è che i miei piedi palmati abbiano dei poteri, no certo, la difficoltà però, abbiamo visto che al busto non si fa danno, no, certo, ha senso mirare un'altra parte, magari poi è un 8 quello, la difficoltà la psiche devi fare comunque 3 di 7, sì. Usa 2 punti psiche. 2 punti psiche. Uso un punto psiche, Salla. Vai. Non devi usare quello che diventa, tipo 4. Quindi più 4. No, no. Usa quello che è. Adesso ne ho 5, no. Lo uso, ho un più 5. Boh! Fatto 6, più 5, 11. Poi magari non tiene lo stesso. Sì, però la scena c'è stata. Ti devo fare una prova di psiche, immagino. Tira su psiche, sì. Scusate ragazzi, mi sono confuso, il mercoledì... È il calcetto. Sì, ho riattivato le notifiche. Scusate ragazzi, mi sono confuso. Ah, il dictator, perché visto che non c'è Ema, vabbè, tanto... Tanto c'è Ema. Allora... No, Ema... 4 su psiche. Ok, quanto hai di psiche? L'ho usato, ne ho 5, quindi l'ho usato e vado a 4. Sì, e hai tirato e quanto hai fatto? Il test di psiche è 4. Ok. 4 totale, più 4. Sommando la psiche. Il dado. Ah no, con il dado per colpire ho fatto 6. No, più allora, il test di psiche tiri mente e sommi la psiche che ti è rimasta. Quindi ho tirato di 4 di dado più 4. 4. Ok, 8. 8. Ok, non succede niente. Da più di 7, più di 7 non c'è nessun effetto, meno di 7 comincia a esserci delle beghe. Ok. Ok. Quindi tiro i danni. Tiri per sparare alla testa. Uh-huh. Tira i danni. Sei. Bravo! Danni che non ci sono, perché lei muove la testa velocissimo e vedi una strisciata di sangue che gli si forma nella faccia. Però non l'hai colpita. Però dalla faccia sangue. Ha schivato. Ma tu hai fatto 11. 6, tocca a Giulio. 5, 11. Però adesso la sua schivata l'ha usata, quindi in teoria... E tu hai una reazione. Sì. Per questo sì, lei noi abbiamo una reazione. Lei potrebbe avere. Sì, però anche però sarà, prima o poi finiranno. Uno che mira e tira e usa un punto psiche. Basta fare 3 di dado, 7 e 5. Oppure, rega, fuggiamo. Posso prendere deflagrante come potenziamento? In realtà sarebbe buona cosa, almeno... Giulio, no, non può! Mi sembra qualcosa. Non so cosa sia deflagrante. So che cosa fa, dovremmo provare aumenta le locazioni... Dovremmo provare a bloccarla, anche se forse... Sì. Dov'è? Ti ho detto che gli avrò tipo dare una spallata. Era all'inizio dei potenziamenti generici. Il potere con bersaglio è un potere di questo punto. Se non c'è scritto non si può nelle cose, è tipo una specie di tic. No, potere con bersaglio d'aria. Secondo me, cioè, nel bloccarla io rischio, cioè, chiunque di noi rischia di morire. No, beh, vabbè, ma nel senso, se mandiamo i cloni, tu dobbiamo cercare magari quanti cloni hai, non ci sarà una corda o qualcosa. Sì, l'unica cosa che non puoi prendere è area estesa. Mm-hmm. No, prendo puoi prendere quello che vuoi. Giusto, sta potenziando durante il combattimento? Sì. Beh, ha più senso che... Sì, no, infatti fa bene, ci sto pensando anch'io. Io volevo prenderli, però li prenderò a fine. Eh no, invece delle due... Beh, adesso ovviamente vi sarebbero più utili, però non è... No, però se Giulio sta usando il potere nel momento di la crisi, guardia mi sta male. Ci sta anche che il potenziamento... La guardia è completamente in fiamme, ma vedi che il fuoco si sta propagando... Tipo mi spostare da là, tipo super saiando la sì, faccio, provo a colpire Claudio, se non rischio di colpire nessuno degli altri. Non rischi di colpire nessuno degli altri. Lei si è spostato. No, il tavolo l'ho ribaltato e quindi lei ha il tavolo di qua e lei contro il muro in teoria col tavolo da una parte. Allora lancio, cioè, in giro l'inverso di là dell'acqua addosso. No, ci sono dei cani, ha dei cani. Ne tiro due locazioni. Sì, sì. Giusto, 7. Uh-huh. Il water. E 4. Ok. Quali sono le cose che hai colpito? Il busto? E 7. la gamba. E faccio, tiro un solo, una sola volta, 40 danni. Com'è il deflagrante? Bene. Ecco una locazione extra ad ogni bersaglio nell'aria. Ok. Speravi e fare... anche i pantaloni prendono fuoco. E le gambe come sono? Non lo sai. C'è il fuoco. Allora. Beh. Giustamente. Il fuoco si sta espandendo. Mm-hmm. C'è sto ritorno. Vabbè. Il fuoco si sta espandendo e la stanza si sta riempiendo. Claudia si strappa via i brandelli di pantaloni rimasti e vedete che il pelo continua fino ai piedi e vedete che ha una coda da gatto. Dopodiché non la vedete più perché di fronte a Katta e ti tira un po' di colpi in faccia. Posso parare? Sì, puoi provare. Spara con la gamba. Beh, nel frattempo mi tolgo i 5 pie che ho speso. Uno! Yeah. No, ti colpisce 3 volte. 7, 7, 2. Nelle locazioni. Che culo era? Che culo! Sono 60 danni alla locazione 7 e 30 danni al 2. Come sei messo? Quindi mi rimangono 40 PF alla gamba destra e quanti ne ha il busto, hai detto? 20. L'ultimo, quanti erano? 20 danni. Quindi me ne rimangono 130 al busto. E poi ho i danni che mi ha fatto in testa. La cos'era volta. Le gambe? Ne ho 60 alla gamba destra, quindi me ne rimangono 40. Ok, ti ha dato... cadi a terra, prendi un punto fatica. So perché granchio. Non so neanche io. Non credo sia un problema mio. Non so perché, però provo a abbassare un po' il volume magari. Ok, dicevo, cadi a terra, fai una prova di fatica. Ma cazzo, provare a staccarle e riattaccarle. Perfetto. Soffiare dentro il cavetto. Sentite tutti una voce nella vostra testa. Che dice, questo nemico non può essere battuto. È una voce che non conoscete. Una voce abbastanza profonda di uomo. Questo nemico non può essere battuto in questo modo. Se vi fidate, potete chiudere gli occhi. Oh. E vi darò i mezzi per batterlo. Se spostiamo questo dopo solo c'è la rete. Magari found. No, sai che è il computer? È il computer. Sì. Ah. Il computer che ha dei problemi, non è le casse. Fantastico. È l'audio del Mac. Vabbè. E non si può isolare e farlo solo di casse? Sì, si può. Se vai su alzare il volume delle casse. Preferenze del sistema. Alzi il volume delle casse e togli tutto quello del computer. Vai su preferenze del sistema, suono, uscita e selezioni solo le casse. Vado a prendere giù il manuale di Urbano. Chiaro? Forse. Devo fare audio e suono. Ma io sto prendendo un sacco di poteri e divento un dio. Uscita. Che base ha il derivato? Livello di ingresso, come corde auricolari, il lanciamento che è contro. Giusto? No, se prendi un potere extra, è un potere in più. Cosa vuol dire? Okay, poi devi però è presente che non c'è so. di vari tipi. No, che tu puoi scegliere tra i derivati, il potere extra. Sembra che non meno funzioni, non so. Presente che tipo ho i mutati, non è il problema potenziamenti nominali. E poi questo hanno una sfiga che bilancia la cosa. Mm-hmm. Quella dei derivati qual è? No, nessuno. Non io mi pago normale se ho... Prova. Ho oggetti con lo stesso coso. Prova. È la mia sfiga che è tutto legato all'oggetto. Boh, andiamo avanti. Vabbè, vuoi provi a staccare e attaccare il microfono? Potenzialmente che voglio, ma... Non so se sei tu, se... se è un problema suo. Boh. Adesso? Prova? Prova. No. Allora. Il tempo risolto? Dicevo, avete sentito questa voce? Che dice non può essere battuta? La voce dove la sentiamo? Nella testa. Quindi è tipo mentale. Prova a cambiare il microfono, vediamo se cambia qualcosa. Non so se sei tu oppure è impazzito il mio Mac, però adesso gracchia ancora. Sì. No, adesso no. Sì, gracchia ancora. No, no. Come no? No, qua non qua no. Allora forse è un problema di microfono. Ora gracchiamo. Sì. No, ora no. Parla? Prova. Adesso? Sì. No, non fa quel rumorino di prima. Ok. Va bene. Okay. Eri tu il problema. Francis Sox. Cos'è che dice questo nemico non può essere battuto? Virgola. Chiudete gli occhi. No, non può essere battuto in questo modo. Chiudete gli occhi. La voce ha una voce riconoscibile? No. Non la conoscete. Non mi ricorda né il professore, né gli hack, no. né ma... Okay. Beh, chiudiamo sti cazzo di occhi. Tanto ormai. No, chi sta? Dobbiamo fare iniziativa? Cioè stiamo seguendo l'ordine dell'iniziativa? Non lo so. Tocca a Vez. Noi però stavamo cercando di spegnere l'incendio, dipende. Dai l'ordine al clone. Tanto è vero. Sì, ci sta. Beh, se è pieno un secchio? No. Allora devo aspettare. Vabbè, ci chiudo gli un round a riempirsi. Chiudo gli occhi, l'altro clone proverà ancora a prendere Claudia, immagino. Tira per l'altro clone. 3. No. E ok, chiudi gli occhi. Va bene. Arci e Katta. Continuando da... Forse se lo metto davanti sentite. Prendo un'altra pentola. No, scherzo. Mi vado verso la zona. Verso la porta, no? Io sono dal bagno. Il bagno che sto riempendo il secchio. È vicino a te, Vez. In realtà. Ah, sì. Ma io vado vicino a Vez anch'io. E chiudo io. Ok. Mi fiondo sotto il letto per cercando di nascondermi e chiudo io. Chi non ti troverò mai? Giulio. Ora vi brucio tutti con gli occhi chiusi. Beh, chiudiamo sti occhi. Tu non hai visto gli altri chiudere gli occhi in realtà, quindi puoi anche continuare a bruciare. Fuoco! No, beh, visto che ho deflagrante, dai, un altro tuo round. Okay. Vai. 6. Sì. Intanto può colpire, poi chiude. E 1. Ok, tira i danni. Cazzo. 1. 10. Ok. Cos'è questo? Però un po' i capelli gliel'ho bruciato. Sì, un po' sì. Claudia si volta. Allora. Katta. E poi chiedo gli occhi. Katta. Prendo il cellulare davanti. No, è scappato nella stanza, quindi non lo vedi. Giulio, quello che vedi tu è che Katta se n'è andato da Claudia ed è entrato nella camera. Claudia si volta verso di te e si avvicina e ti legna. Perché mai chiuso gli occhi a fine tu? No, non hai avuto fiducia. Non posso prendere dominio evoluto radiazioni, vero? Se vuoi, sì. Facciamolo adesso, dai. Però, se vuoi, sì. Dopo ci spari la radiazione addosso a noi. No, per ora. E adesso avete poi i poteri. Oppure No, però lo devo riattivare col nuovo dominio un potere. Adesso. Vabbè, allora dai, no, la prossima volta. Ok, provi a schivare? Provo a schivare, sì. Ma Sceo in tutto questo cosa ha fatto? Sceo all'inizio si è allontanato, ha massacrato il tizio e poi ha chiuso gli occhi. Rilassati! Uso un punto psiche. Che forse non importava. 10. Ok, evitato. Fai una prova di psiche. 1. 5. 1. 5 mi piace. 5 è la cosa più bella che potevi tirare. E a 5. Vedete quando diciamo la voce di Giulia che fa... Ora comincia a farla sul 6. Tira un dado da 10. Mm? Che? 10. Dado. Sì. Ok. Ce l'ho. Adesso lo tiro. Sempre il buio. 5. Ok. 13. Ok, riesci agilmente a evitare un pugno. E poi te ne becchi 3. Allora, ti colpiscono 1. Anche a me prima. E 7. Allora. Testa, busto e gamba destra. Destra, com'è? Al primo ti fa un bel quarantello. Porca troia. Al busto, al busto. Il primo è... No, la testa. Testa. Il secondo ti fa un bel trentello. E il terzo ti fa un altro bel trentello. Dove? Il trentello secondo me. La gamba destra. E direi, cosa giù gli occhi, gli ho chiusi comunque. Con le X come nei manga. Tocca a Vez. Devo prendere le mie radiazioni. La prossima volta si becca. Hai perso un round chiudendo gli occhi, eh? Ho perso il cazzo chiudendo gli occhi. Sei cascato la mossa di Claudio. Allora, Vez. Il clone proverà di nuovo a No. Senti, okay, in testa, sì. Ora puoi riaprirli. Ora ti ho dato gli strumenti per sconfiggere Claudia. Ok, mi riapro. Ok, li riapri. Non sei più in casa di Ema, ma sei in una sorta di palestra, come fosse un... Oh, mi piace questo palestra. Palestra inteso campetto tipo da basket, quelli da scuola media. Ok. E intorno vedi delle armi appese alle pareti, sì, diversi tipi di armi, sia da fuoco sia armi normali. Hai capito, Nio? Dimmi cosa fai. Vedi dei palloni, vedi delle spalliere. Ci sono delle armi tipo fucili così? Ci sono, sì. Ora mi hai detto, ora ti ho dato le armi. No, cosa mi hai detto? Ora ti ho dato le armi. Ti ho dato gli strumenti per sconfiggere Claudia. Quindi è chiaro che i suoi punti deboli sono o le spalliere o i palloni. Ma ci sarebbe fare una cosa molto ignorante, prendere un pallone? Puoi farlo. Sì, vado a vedere un pallone. Ok, ti muovi? Sì. E intanto senti che hai qualcosa in testa. Ok, posso provare a toccarmi la Puoi testa? Puoi provare a toccarti la testa. Quello che senti, mettendo le mani così, sì, è che hai due orecchie. Mm-hmm. Due orecchie che ti spuntano dalla testa. È strano perché non hai i capelli. Ah. E in testa hai un cappellino tipo... Sai i cappellini quelli tondi? E tipo... Come cazzo si chiamano? I berrettini? Eh? Sì, la bombetta. Tipo bombetta, esatto, bravo. Ok, e dalla bombetta escono le orecchie? No, le orecchie escono da di fianco alla bombetta. È tipo... È una bombetta e le orecchie spuntano di fianco. Le orecchie pelose, ammazza, no, le orecchie non sono, cioè hanno un pelo molto corto. Mi apro gli occhi e mi do fuoco. Si mette in picchia la spalliera. Quell'altra cosa, tiri giù le mani, le guardi, sì. E le mani non sono come te le ricordavi, ma sono mani da animale. Riconosco il tipo di animale? Sembra un cane. No, che brutto il cane. Oh, dico, oh merda. Però lei è un gatto, capito? Più figo il gatto. Perché tu la pesti da cane. Cioè, anche da orso, probabilmente. Però... No, però vabbè. Ah, dico, oh merda. Vabbè, e vado comunque... Massimo direi, babba. Ah, no, riesci... Okay. No, dico merda. Dico merda o appaio? No, dici oh merda e lo dici con un accento inglese, ma stereotipato. Quello tipo da cartone animato. Ma è tipo la skin di Nasus. Oh, merda. È tipo la skin di Nasus. Oh, merda, non ci l'idea fare. Sì. Nasus Duke. Or... Però è un pitbull. Vai, vets. Però tipo le posso usare normalmente le mie mani? Sì, o sì, usi normalmente le mani. Prendi la palla. Poi tocca a darci. Apro gli occhi. Ah no. E non mi dice nessuna voce, sì, sì, anche tu senti la stessa cosa di... E vado in palestra? Apri gli occhi e vedi una palestra. No, mi dici di aprirli però. Sì, ti dice di aprirli. Okay. Apri gli occhi e vedi una palestra come quella di Vez. E vedi una sorta Vez di... Vez non lo vedo però lì dentro. Sì, sì, sì. Vedi le armi e vedi una sorta di pitbull con bombetta che ti è appena passato di fianco e ha preso una palla da basket dietro di te. Capisco che è Vez, è vestito come Vez. No, no, no, è vestito tipo gentleman in inglese. Ah. Però ci dici bacco. Io quindi cosa vedo? I palloni, le spalliere e le armi? Sì. Vado verso le armi. Ok, anche tu muovendoti ti muovi un po' impacciato, come se fossi molto più largo di quello che ti ricordavi. Avanti, sal, piano con queste. Sto qua, mi siedo e mi tocco e mi salgo. Guardandoti intorno noti che non indossi vestiti, tranne un paio di pantaloncini. Viola. Va bene. I fiumi. E non hai... Ho dei peli? No. Ma hai una pancia molto prominente. E sei molto molto più grosso di quello che ti ricordavi. E hai delle fattezze ippopotamesche. Indegna. Ti avvicini alle armi. E che arma prendi? Sono le mani da ippopotamo. Ma sono prensili. Sì, tipo cartone animato. Per cui chi le mani da cane prende la palla. Sei calvo, cioè non hai mai stato un ippopotamo. Come te. So che te ti trasformi in animale ti ogni faccio giorno, un body slam che resti spianato come quello di Stephen. No, sono un'arma. Dovrei chiudere gli occhi. Tipo cartone animato. Che armi ci sono? Il corvo, bello! Scegli tu. O se c'è arma io scelgo, ci sono. Di grossi che c'hanno il casino. Anche che non esistono. Beccavano Ho visto uno passare Vabbè, memoria della mia infanzia e ricordandomi un po' anche se andare in rinoceronti Disney, prendo un'ascia bipenne. Ok, è come se l'ascia bipenne che tu avessi pensato fosse sulla parete e quindi la prendi. Catta. Hai preso? Un'ascia bipenne. Bene, mi apro gli occhi, dove sono? Presente io, Robin Hood. Catta, tu sei in una palestra. Ah sì, però non ricordo. Chi c'è di fianco a me? Il boia. Vedi, di fianco a te... Ma io comunque non ce l'ho. Un cane, okay. Con una bombetta. Ok, potrebbe essere molto complicato fare l'immagine. Sì, sì. No, la faccio io. Okay. Perché la rubo da immagini già esistenti. Tanto ormai hanno i diritti su quel libro sono scaduti. E dicevo, hai di fianco a te un cane, una sorta di pitbull, su due zampe, con una palla da basket in mano. Okay. E lo vedi attraverso degli occhiali che non ti sembravano così spessi. Guardando meglio... I miei occhiali sembravano... Quelli che ho adesso erano più spessi di quelli che ho ora. Meno spessi. Quindi quelli che ora sono più spessi. Che di ora quelli. Sono più spessi, è come se fossero alti così, tipo stereotipati. Sì, delle lenti di ingrandimento qui. Tirandoli via, vedi che sono due monocolini alti così. Ok. Se ovviamente intolici il corno. Al che ti chiederai, come facevano a stare sul mio naso? Facendo così, vedi che in effetti tu hai un muso. ancora di su. Più di quello che okay. È un muso lungo, è come tua richiesta personale. Beh, allora mi sento un muso da talpa. Qui, cioè, il cane di fianco a me, che dimensioni ha rispetto a me? È alto più o meno come te, forse un po' di più. E che cosa ho indosso io? Che vestiti ho? Se ho vestiti. Sì, buona domanda. Aspetta, scusami, come si chiama sta cosa? Che cosa? Da cui hai preso sta roba a Salla? Spoiler. Allora. E dai, così vediamo come siamo. Come siamo. Dice che... ok, hai un Apollo. Un Apollo. Ok, va bene, quindi sono sempre nella stessa situazione, cioè ci sono tutte queste armi, queste attrezzature sportive? Sì, esattamente. Ok, allora, intanto ricordandomi delle bruttissime cose che ho visto su internet, cammino molto radente al muro. Ok, e spalle. Ti dirigi verso? Le opzioni, hai detto, sono armi da fuoco, ci sono armi normali. Armi? O anche roba sportiva, tipo palloni, tipo le spalliere, tipo pesi, bilancieri. Non mi avevi detto questo. Ai lati. Vero, devi prendere il caso di bilancieri. Non aveva detto Salla che sono pesi e bilancieri. Tu cosa hai preso? Una shabby penny. Una shabby penny. Se ti volti verso le armi, vedi che c'è un ippopotamo che è parecchio più grosso di te. Ok. Ma sono anche alto? Sì. Oh. Ah, ok. Cioè, considera che Vez è un pitbull, quindi non è tanto alto. Ma l'altezza del pitbull o è Vez versione cane? No, è l'altezza di un pitbull su due zampe. Ah, ok. Per okay. Cui tu sei tipo un rinoceronte, cioè un ippopotamo. Sei un ippopotamo. Va bene, questo è più alto. Però non antropomorfo. No, però è su due zampe, è tipo Disney. Ok. C'è tipo una rete da lancio o tipo da gladiatore, c'è. Una roba del genere? C'è. Ok. Va bene, prendo tipo la rete e il tridente come classico. Ok. Che animale sei? Una talpa? Ma la talpa non è alto come una talpa però. Sì, è alto come una talpa. Ma hai detto che sono alto come Vez. È poco più alto Vez, non è che sia altissimo un pitbull. Senza offesa. Talpa è grande, no, cioè talpa è più grande di cellulare. Talpa è grande così, È una marmata. Sì, ma se prendi una rete su cosa due piedi cosa... insieme, sì. Grande così. Talpa è piccola, Sì, no, Salla, ma dico probabilmente se ci sono tantissime razze. Ma catta un tridente grande così, Vediamo. Sì. Se una talpa ovviamente tutte le cose che avete preso hanno le vostre misure. Scusa, un pitbull su due zampe è un po' più alto di una talpa su due zampe. È un confronto che non ho mai fatto, non ti sapevo. È difficile, però guarda com'è carino. Va bene. Più che altro è una rete grande. La talpa dal muso stellare. Sì. È grande esattamente, cioè è proporzionata alla persona che l'ha presa. È una rete che è grande come un foglio A4. Tipo. Sì. Talpa europea. Anche se prendevo lanciafiamme era un accendino in propria emozione. Infatti devi prendere tipo una specie di spada che almeno è un ago. Esatto. Prova a ammazzare qualcuno. Va bene. Giulio, hai Claudia che ti sta randellando di legnate davanti a te. Sta sdraiata, è uguale anche da in piedi. Sì, esatto. Certo. E tutta la casa prende fuoco. Ci sarà un 50. Chiudi gli occhi? Sì, anche di più. Ok. Vediamo che animale mi trasformo io. Ok. Allora, tocca a voi. Vez, tu hai appunto... No, siete fuori dall'iniziativa. Ditemi semplicemente cosa fate voi tre. Ah, ma continuiamo a essere nella palestra? Sì. Non è che ci siamo teletrasportati da Claudio. Beh, io dico, e voi no. Cazzo? E voi chi cazzo siete per vinci Bacco? Cioè, io ero Arci, prima di avere questa bellissima ascia di penne e di essere l'ippopotamo. Io ero Cazzo, ho seguito quello che mi ha detto di fare. Te lo immagini con gli occhialoni tipo grandi così? Giulio è morto perché cos'è quell'anno tu alla grinta. Io prendo su catta cioè, guarda che come vestito da gladiatore, che carino. Oh, sui giù pezzo di merda. Okay. Ciao, Giulio, apri gli occhi. Male, no? Giulio, apri gli occhi e vedi una scena strana. Perché vedi un ippopotamo che tiene in mano. Un ippopotamo che ha un'ascia di penne in mano. Che tiene in mano una talpa con una piccola rete. E di fianco c'è un pitbull con la bombetta che ha una palla da basket in mano. Ok, guarda se ho ancora il mio cellulare. Ovviamente non hai il tuo cellulare, ma le tue mani sono parecchio pelose. E hai qualcosa che ti dà fastidio sulla schiena. Tocco dietro. È una coda, pelosa. Sulla schiena, la coda? Cioè, sarà. Mi dava fastidio sulla schiena nel senso che mi batteva sulla schiena. Ah, ok. Ah. Boh. Una scimmia, Giulio, una scimmia! Non c'è una qualche superficie riflettente? Potrebbe essere uno scoiattolo. Sarebbe fighissimo. Ci sono delle armi. Ci sono armi, ci sono... Vedi quello che vedevano loro. Non posso avvicinare, non c'è un'arma a cui mi posso tipo specchiare. Non c'è il cellulare. Sì, puoi specchiarti, vedi davanti, vicino a te, vedi un'altra ascia con una lama molto grande. E mi avvicino e mi cerco di specchiarmi. Ti specchi e vedi un muso felino di un gatto. Scontatissima, telefonatissima. Un gattino, piccolo lui. E quindi è grande come un gatto, Giulio. Sì. Non un gatto, un gattino. Di che colore ho il pelo? Arancione. Boh, dimmelo tu. Dai, tipo Garfield. No, il tipo Garfield. Nero, dai. Gattino nero. Colpisco il gatto con l'ascia di penne. Dimmelo tu. No, grigio facciamo. Tipo tigrato. Va bene. Fallo vestire come il gatto con gli stivali. Sei decisamente vestito come il gatto con gli stivali. Sì! Un gattino così! No, con gli stivali. Tipo con gli stivali. E il cappello? Ovviamente è il cappello con la piuma sopra. Oh, figa. Allora prendo una spada. Prendi una spada, ovviamente l'ascia che avevi davanti non è della tua misura perché è molto grande. Vedi però davanti a te una spada che è della tua misura, che è tipo... Fioretto. Ok, perfetto. Va bene, lui... Pensando, interessante, sono morto forse. Ok, sir. Faccio ma... Vi dico, quindi anche voi avete chiuso gli occhi? Io ho chiuso gli occhi, ora sono un cazzo di yak. Puoi anche parlare normale, Bez, quello era l'inizio. Cioè, se vuoi puoi non mettere l'accento. Ma perché non mettere questo accento meraviglioso? Quindi adesso Vez mi fa un po' senso, perché è un cane. Cosa sì, però la testa rimane la nostra, non è che siamo dei divisi. No, la testa è la testa di un animale. Sì, ma non è che abbiamo il cervello di un ippopotamo, di un cane, certo, di un gatto, sì. Non sembra dei ritardati. Sì. Quindi dico, Giulio da gatto non ha paura dei cani. Vabbè, ma il gatto non ha paura. No, beh. No. Io, però da talpa rimango sulla groppa dell'ippopotamo, lontano dal gatto. Ok, quello che vedete voi tre è un gatto che si è avvicinato alle armi. E questo rega, il gatto con gli stivali! E lei chi sarebbe, sir? Forse il sir Giulio? Sir Giulio il gattino, in effetti. Sei Vez, mi immagino. Assolutamente. Giulio, hai scelto una spada. Non ho preso una spada medievale. Sì, ma quella che però è della mia misura, quindi. No, devi prendere il fioretto da gatto con gli stivali. Dimmi che non c'è la spada medievale. Sale. No, c'è la spada. Ci sono tutte le armi che volete. Non lo so usare il fioretto. Prendi il fioretto. Il cappello con la piuma lo so usare. Beh, un cappello. Sì, ma non riesce a manovrarlo facendo il figo. Imparerò. Ok, sentite, sempre nella vostra testa. Bene, tra un po' vi manderò anche Claudia. Mi raccomando, qui potete farle veramente male. Ma cos'è? Lei chi è, sir? Sir! Ma siamo venuti in un brutto episodio. Sir! Di Community. L'ho detto. L'avevo detto due settimane fa. Da quanto arriva Claudia? No, tra poco. Hai risposto? Allora, allora io mando un attimo, appoggio un attimo l'ascia. Vado verso i manubri e i bilancieri. E voglio vedere se mettendo tipo un carico pesante ho la forza dell'ippopotamo. Ok. Mi risponde a un manubrio, vabbè, prendo solo un manubrio, dai, un manubrio pesante. Ok, un manubrio pesante lo sollevi senza problemi. Mentre Archi, si fa ste seghe mentali, mi risponde quando gli dico, sir, chi è lei? Io sono un amico. Un amico di chi, sir? Spesso abusiamo di questa parola, però. Ecco. Un amico vostro, e vi sto salvando la vita, quindi fidatevi di me. Va bene, sir. Hai la mia ascia. Vabbè, Archi... Vedete l'ippopotamo che si avvicina, prende un manubrio e fa non c'è problema, forse uno più grosso. Vedi che ne prende uno più grosso e fa e con fatica lo tira su. Posso prenderne anche uno più grosso, vedete, sai quelli enormi da cartone animato. Lo tira su. Che si piega. Fa, guardate quelli piegati. Esatto. Guardate, rega, qua sono fortissimo e cade. Dà una testata fortissimo e rimane tipo sotto il manubrio. E, però non ti fai male. Sotto un manubrio è un po' difficile, però. No, dai, tipo ti cade, tutti i manubri sopra cadono su di te, vedete una gran confusione, un gran casino. Come nei cartoni. Esatto, è come un cartone animato. E poi... E quindi... Ma la visuale che abbiamo noi, cioè io ne vedo è realistica o è tipo un po'... cartonata anche è come... un po' cartonata, un po' fumettista. Quindi cioè, non è che Vez è un pitbull proprio animale. No, è un pitbull come Tom e Jerry. Appunto, sì, tipo sì, in 2D quasi. Un gatto, un top. c'è anche il pitbull in Tom e Jerry. Okay, non mi ricordo come si chiama. Io mi metto tipo a scavare una trappola, cioè scavo il terreno sotto al pavimento in modo che quando chi ci arriva sopra ci cade. Okay. Dito. Fai una sorta di tunnel sotto. Sì. Va bene, e vedete la talpa che scompare sotto la palestra. C'è dell'esplosivo tra le armi? Ovviamente. Ce lo porto sotto. C'è e... quello grande che ho scritto TNT sopra. Esatto, col TNT e il filo che con la roba che si... Esatto, certo, sì. Esattamente così. Perfetto, okay. Allora io, visto allora, che ci saranno il anche... tunnel, in fondo ci metto quello. Visto che ci saranno anche delle incudini... C'è una X rossa sul punto. Va bene, ci sta. Ci sta, ok. Io so, ci sono delle incudini, quelle in cui... le classici incudini in cui Willy il coyote ci lanciava sempre sotto. Le classiche incudini... Sì, le incudini di metallo? Sì. Ecco, le metto su tutte le porte della palestra. Con su scritto una tonnellata. Ok. Io faccio una cosa molto da gatto. Mi arrampico su una spalla. E una palla di pelo. E mi metto a riposare. Io cerco una pipa da far match con il mio, con la mia bombetta. Trovi la tua pipa. Metto in bocca e poi tengo il pallone pronto a colpire. Ok. Dopo poco sentite dall'altra parte della palestra che scende come dal tetto, vedete una scimmia che scende e fa con una voce un po' da Claudia ma mimetizzata da scimmia. Fa, non so cosa sia questo scherzo, ma vi ucciderò anche qui. Pulce e si avvicina verso di voi. Iniziativa no? Sì, iniziativa. O volete tenere quella di prima? Io capisco, però ovviamente ero ultimo, quindi è identico. Cioè, visto che lei è da sola, in realtà è uguale. Però tiriamo. Tiriamo? Sì, tirate. Cioè, dipende, è indifferente. Ecco. 5 2. La carta di testa è sempre uguale. Tira 2. Siamo io, Kat. Io sono ultimo. Io, Kat, Giulio, Vez. E c'è cazzo la clown. Ok, come dicevo, Claudia si avvicina verso di voi. Dalla parte opposta della palestra. Serve un'esca in modo che... c'è la tua X rossa? Sì, la X rossa è tipo un po' davanti a voi, verso il centro della palestra. Cioè, in quell'X rossa cosa c'è? Dove c'è l'esplosione, quando uno attiva il detonatore. Se lo spiano lì sopra con la scimmia di merda. Ok, tocca a voi. Tocca a me? Sì. Provo ad andare verso la scimmia. E a prendere e lanciarlo sul coso rosso. Ah, ok. Ah, la prendi e la lanci? Ok, ci sta. Siamo nei cartoni. Devi tirarmi 2 di 6. Tre e sei. Nove. Okay. Ok, riesci a prenderla, tirarla, lanciarla contro, la scimmia atterra sulla X rossa. Però a terra tipo, cioè fai fare un volo, saranno 5 metri, e però a terra non si fa niente, cioè tipo fa tipo la nuvoletta di polvere. Se sì, è collegato allo scatolino. Catta. Hai catto? Tira, 2 di 6. Il primo, 6. Il secondo, 4. Ip. Ok, scoppia tutto in mezzo alla palestra. Vedete sentite un grosso boom, una grossa esplosione enorme, e quando il fumo si dirada vedete un buco in mezzo alla palestra. In realtà non è grandissimo, il pavimento è spezzato così, tipo appunto cartone, e vedete nel tetto un altro buco. Tocca a Giulio. A sagoma di scimmia, no? A sagoma di scimmia, ovviamente. C'è anche la coda. Usare. Tocca a Giulio. La scimmia non si vede, quindi è salita. No. Sì. Sto fermo lì. Ok, Vez? Sulla spalliera del sole. E non vedo la scimmia, praticamente. No, tu vedi, hai sentito l'esplosione, hai visto il buco e questa grossa sagoma sul tetto. Provo a vedere se funziona il mio potere qua, per caso, o meno. Provo a sdoppiarmi. Tuo potere non funziona. Okay. E allora, qui non si possono preparare azioni, giusto? No, puoi dirmi cosa fai, se vuoi dirmi preparo un'azione a quando lei ritorna giù e gli faccio... Sì, se torna giù, tipo, in caduta, prova a colpirla col pallone. Al volo, d'accordo. Ok, mentre siete lì pronti sentite un boom, un buco nel tetto, e vedete una scimmia che cade. Tira, Beth. Cos'è, un di 6? 2 di 6. Tu sei bulldog. 6 e 6. 6 e 6. Colpisce al volo la scimmia, fortissimo, con tutta la forza che puoi mettere. Vedete la scimmia che prende e si spiattella contro la parete opposta a dove siete voi. Poi si rialza, fa... Vedete tipo gli uccellini sulla testa. Sì, esatto. Mi avete fatto male, ma io ho le armi. Fa così, tira su... Prende una grossa mitragliatrice, tipo quelle fisse sul terreno, e comincia a smitragliarvi. Fatemi tutti un tiro per schivare. 2 di 6 o un di 6 solo? E 2 di 6 sempre. 4 e 2. 5 e 2. 5 e 3. Ok. 2 e 4. Quindi 6 Vez, 6 Catta. Giulio quanto? 8? 7? 7 io. 8 e 7. Ok, allora l'ippopotamo, anche se è enorme, riesce a accucciarsi e spostarsi. Il gatto non fa una piega, tanto non arriva un cazzo lì. Mentre voi due prendete una sagagnata di proiettili in faccia, sentite male, molto male. Non vedete sangue, sentite solo dolore, come se i proiettili vi colpissero, vi facessero il buco. Però nel buco non ci fosse sangue. Vi siete tutti bucherellati. E basta. Tocca ad Arci. Tu ti sei spostato da questa selva di proiettili. Arci. Sì, io praticamente faccio così, non so se è presente la scena, però te la descrivo. Prendo sulla pancia, l'alzo un sì. po', poi la mollo di colpo, e quindi fa quella specie di rimbalzo, e poi corro con le mani così, okay. per spianare la scimmia con una panciata, con mitragliatore e tutto contro il muro. Va bene, tirami. Dov'è la tua scheda? Qua. Uno. Ok. E 5, 6 totale. Ok. Allora, colpisci il mitragliatore perché è fisso al terreno, ma la scimmia riesce a schivarla. Mm-hmm. E poi credo che tu prosegua, immagino. Fino al muro. La mia idea era di schiantare la mia pancia col muro. E schianti la pancia sul muro, il coso si frantuma, il mitragliatore, ma la scimmia si è spostata. Okay. E Katta, non ti senti tanto bene, sei un po' bucherellato. Che cosa devo fare? Posso prendere dei tappi? Certo, puoi farlo. Mi rintano in una buca in terra e mi tappo i buchi. Ok. Giulio, tutto quello che è successo l'hai ignorato. Come tuo solito. Ignoro. Rock and roll. Dai. Beh, comunque ormai che siamo consci che i danni sono limitati, possiamo sbizzarrici. Assalto Claudia e cerco di impalare la testa con la spalla. Non sono reali, nel senso, sennò io sarei solo morto. Okay. Sono mentali, nel senso. Sì. Tira 2 di 6. 9. Esatto. Ok. Colpisci Claudia? La colpisci in testa, hai detto? Ok, colpisci Claudia con la tua... Ma cercando di decapitare o cercando di puntare? No, da sotto per infilzarla. Mento... Con cosa la colpi? Una specie di dal mento in modo che sbuchi... La ah, okay. ok. Colpisci, la colpisci, passa da parte a parte. Da parte a parte e c'è Claudia che rimane così, infilzata. Tocca a Vez. Io ora sono disarmato. Sì, e sei tutto bucherellato. E la tua pipa e la tua bombetta sono bucherellate, cioè ce l'hai ancora addosso, ovviamente, però sono bucherellate. Okay. Tipo la pipa è rotta, è tipo solo un cosino così. Ok, cerco uno skateboard e una mazza da baseball. Ok, li trovi. E posso fare altro? Sì, dimmi cosa. Allora io direi, beh, sicuramente non è molto British come atteggiamento. Mi metto sullo skateboard e parto per andare a tirargli una mazzata al volo con lo skateboard. Vai, tira ammazzata. Sempre 2 di 6? Sì. 5, 1, 6. Purtroppo. Troppo. Cerchi di colpirla al busto, ma lei è attaccata così con la testa e riesce comunque a spostarsi di lato e la manchi. E tirami per vedere se riesci a frenare e non colpire la parete. Cosa devo fare? Sempre 2 di 6? Sì, sempre 2 di 6 si tirano. 4 e 4, 8. Ok, e riesci a fermarti contro la parete senza schiantarti. Okay. Tocca a Claudia. Vedi che Claudia fa... Mi hai fatto male stavolta. E fa così, fa un salto carpiato... E torna in piedi sfilandosi dalla spada. Tocca a Arci. Ok. ritiro, cioè girandomi dal muro che avevo appena schiantato, ritiro sulla pancia. Ok. Mi metto tutto il tempo. Esatto. Mi metto giù un elmetto da football, okay. che mi è comparso. Sì. Ok, le spalle. E prendo, corro. Un tappetino elastico, ci corro contro. No, e corro per dare tipo una spallata alla scimmia, per schiantarla contro la parte. Vai, opposta. Tira. 6, 4, 2. Ok. E ancora una volta la scimmia evita, ti schiva. E tu ti schianti contro il muro distruggendo tutto quello che hai trovato, ti cade tutto addosso. Ovviamente c'è una grande esplosione, tutto il muro è intatto, l'unica cosa è caduto tutto. E Katta. Allora, vado a prendere una banana, la pelo, tolgo l'interno, ci metto un candelotto di dinamite, lo accendo e gliela tiro. Ok, e gli dici tipo prendi questa banana. Esatto. Va bene, Tomma. Tirami. Dov'è la tua scheda? Qua, cat. Vai. Sono vicino anch'io. 2, 5, 7. Ok, vedi, tieni questa banana. Di che fa? Grazie. Oh oh, boom, scoppia. E Giulio, tu vieni stirato anche tu dall'altra parte della stanza. E vedete, quando il fumo si dirada, che c'è la scimmia, tutta abbrustolita, con in mano tipo la banana spaccata. Che fa? Stavolta ha fatto molto male e cade per terra di faccia. Giulio, tu sei stato sbalzato dall'altra parte della stanza. Io per protesta mi rannicchio in un angolo per arcarmi il pelo. Ok, Fez? Beh, potrei riprovare il gioco di prima. Vai. È sempre lì al centro più o meno, no? È lì al centro più o meno, tutta nera, sai, tipo sì, nera spelacchiata. Punto sulla testa per fare un ombranco alla sua testa. Vai. 4 e 4, 8. Ok, stavolta colpisci la testa, vedi che la testa schizza, il collo sì, rimane attaccato alla testa e si schianta contro la parete, dopodiché anche il corpo la segue. E viene schiacciato anche il corpo contro la parete. Quindi è vicino a me. Ed è vicino a te, sì. È vero. Schiacciata sulla parete. Però avendo okay, preso lo skateboard. Vai, Arci. L'ammazzo dai. Tocca a me? Sì. Allora io adesso vado su sul canestro. Mm-hmm. Ok. Il canestro mi lancio. Okay. Con le mani tipo ad angelo, tipo tuffo, sì, con la scimmia. Vai, tira. 5, 6, 11. Oh, va bene. E niente, ti schianti sulla scimmia. E... c'è la faccia sorridente tipo Bonancelli, ho capito. Ok, io direi che la scimmia è morta. E quando ti rialzi, vedete tipo polvere. Quando la polvere si dirada, vedete che c'è solo l'ippopotamo sdraiato su una grande impronta di ippopotamo sul pavimento. E appena Arci si rialza, non c'è niente sotto. La scimmia è scomparsa. Sentite di nuovo la voce? Congratulazioni, sir. Un ottimo lavoro di squadra. Perfetto. Ora la situazione di là si sta surriscaldando, vi consiglio di scappare. Prendo un estintore e poi mi risveglio. Cominciate a sentire anche da animali abbastanza caldo. No, chiudete... io strego per sempre. Chiudete gli occhi e quando li riaprite siete in una stanza completamente in fiamme. C'è Claudia in un angolo svenuta e vicino alle fiamme. E avete le fattezze normali. I miei cloni? Sono scomparsi. Il cellulare sta continuando a mettere fiamme, no? No, se ha smesso. È svenuta. Quindi Claudia cioè, è svenuta e... non so, forse è morta. Boh. A noi sembra prima di senso. Prima di senso. A questo punto fuggiamo e chiamiamo i pompieri. C'è l'incendio, sala, capiamo che non è gestibile a livello autonomo. Tutta la stanza brucia. L'unica cosa che possiamo fare è scappare o c'è tempo per tipo per perquisire Claudia o robe simili? Potete provare a perquisire Claudia. Cioè, potete non fare... è in mezzo alle fiamme, lei? Sì, più o meno, sì. Penso che se c'è la registrazione o robe vai, meglio prendo. No, anche se l'avevo ormai andata esatto, a fuoco. Eh? Sì, anche se avesse avuto qualcosa, petto, sia il busto che le gambe, qualsiasi cosa avesse fiamme, lei, boh, dipende. Cioè, non sappiamo che cosa possiamo... L'unico che non si risveglia è Sceo, che continua a essere svenuto. Ah, cazzo, allora portiamo. Teniamo fuori Sceo. Ok, Tirate fuori io... Sceo dalla stanza. Aspetta, io ho il secchio che stavo riempendo. È rimasto lì, però adesso ci sono tutte le fiamme intorno. Posso rovesciarlo? Puoi rovesciarlo, sì. Sì, lo rovescio e poi prendiamo Sceo e usciamo. Ok. Mm. Ti aiuta solo a farti una sorta di sentiero sicuro per uscire. Mm-hmm. Uscite tutti dalla casa? Sì. Ma c'è solo di via d'uscita, ce n'è solo una, no? Quella da finestre sono hanno le sbarre, tipo. Mi pare di sì, non mi ricordo. Sì. Se provassimo a prendere il corpo di Claudia, ci sta pensando anch'io. Il discorso è che con dei cavi d'acciaio. Lei è meglio che muoia, non vorrei essere. Sì. Bisogna vedere se poi alla fine muore. Nel senso che noi andiamo via. Poi il discorso è: o la prendiamo legata, o la prendiamo e la leghiamo, o le dai un colpo di grazia. Non abbiamo tempo di legarla lì dentro. No. Questo è chiaro. Se... volete trascinarla fuori, ok. Io sicuramente porto Sceo. Il mio primo pensiero. Secondo me in due si deve prendere Sceo. Allora, sicuramente io vado per prendere Sceo. Se qualcuno vi aiuta, dai una mano a prendere Sceo. Gli altri due se vedo che catta. È tipo titubante per raccogliere o meno Claudia, nel caso dico tipo Giulio dagli una mano. Vabbè, se no provo a spararle un colpo in bocca. E risolviamo il problema. Il double tap. Sì. Sì, sì. Vabbè, fai tu. Appoggio la pistola alla fronte di Claudia e faccio fuoco. Ok, faccio la fuoco. Testa esplode. E basta. Ecco, schiva questo. No, sono bravo a sparare. Ema? Uscite? Ema è andato in tutto questo. Ema era andato su. Uscite o non uscite? Sì, usciamo. Uscite. Vedete che ormai c'è fuoco ovunque, il fumo esce da tutta la casa, ma anche da intorno. Uscite dal condominio e vedete che c'è già altra gente che è uscita dalle case, tra cui c'è Ema, che vi guarda e fa, rega, ma che cazzo è successo? Beh, dovrebbe sapere. No, lui non legge nella mente, contatta soltanto. Mm-hmm. Catta, che cazzo fai con una pistola? Mettila via. Hai ragione, maestro. Sono troppi testi voi. Sala, hai visto tipo... troppo, Ema. Sia io che Giulio che Catta, tipo siamo con la faccia mezza tumefatta. Sì. Cioè, sì. Tutti abbiamo la faccia tumefatta. Sì. Ci hanno attaccato, Ema, presto dobbiamo andarci. Raga, io abito qua, però. Non più. Chiamiamo i vigili del fuoco. Cioè. Sì, li hanno già chiamati, stanno arrivando. E noi però meglio che ci defiliamo da qua. Sì, io pelo. Andiamo nel nostro covo. Aspetta, prendo, vabbè, Sceo è tipo lì mezzo svenuto. E dico, Ema, aiutaci a portare Sceo nel vicolo qua che proviamo a rientrare. Eh no, rega, io adesso c'ho della gente che conosco, aspetto che escano e poi vi raggiungo. Tanto... ma così, scusa, ma lui può parlare, come funzionava il parlare? Lui parla nella mente. A lui solo, sì. Lui parla a noi nella mente. Ma noi possiamo rispondere, non mi ricordo più com'è la cosa. No, noi no. Si può parlarti via telepatica. Sì, però ma noi possiamo parlare a voce. Vabbè, io comunque appena uscito dalla casa faccio per uscire proprio. Cazzo, qui abbiamo una casa in fiamme con tre cadaveri dentro. Sì, ma siamo già per strada. Dove stai? Sì, siamo già nel via. Gli dico, vieni che ti spiego un secondo, Eva. Va bene, dai, andiamo. E nel vicolo, cercando di non farmi sentire dall'altra gente, ti spiego che Giulio, a quanto mi pare, il cellulare di Giulio fa delle fiamme, e però si hanno... Aspetta, che difettoso. Quando lui è andato via ci ha attaccato Claudia, la tizia del professore, con due tizi. In breve li abbiamo eliminati, solo che i loro corpi ora sono nella casa in fiamme. Il fuoco? E il fuoco è venuto dal cellulare di Giulio, che a quanto pare ha... credo che sia il suo potere, perché non credo che un cellulare possa fare una roba del genere normalmente. Quindi hai un potere, Giulio? A quanto pare. Ma lo sapevi, oh, scommetto. Schifo! Cosa dice, scusa? Lo sapevi, scommetto. Già, e sapevo anche quali sarebbero state le conseguenze nel non usarlo. Ma devo ammettere che essendo a casa tua la soddisfazione è stata doppia. Cioè, hai dato fuoco a casa mia. Vabbè, l'hai fatto per salvarti. Vabbè, ci sta. Visto che gli altri hanno iniziato, certo, a sparare. Certo, scommetto... Giulio, scommetto che se l'avessi fatto io a casa tua ti saresti incazzato. Perché l'hai fatto? Effettivamente, dimmi. Un bambino. Se allora, l'avessi fatto... No, la prossima lui, no, lui dice... Morire, cosa ti devo dire? Lui dice sicuramente se io l'avessi fatto a casa tua mi avresti detto... Io quello sbagliato. È per questo che non vi chiamo mai a casa mia. Cos'è? Che non ci chiama a casa sua? Perché Emma dice, se l'avessi fatto a casa tua saresti arrabbiato. Avresti detto, un bambino, avresti detto così, eh. Grazie. Vabbè, e quindi cosa pensate di fare adesso? Dai, Arci, è il momento di comandare tutto. Io salto sul canestro e schiaccio Giulio. Intanto Giulio ha il telefono. Scusate. Beh, io siccome stai zitto, dico... Ema, parla piano. Dicevi? Io propongo a Katta. Arci. Che parla... No, io dico, se andiamo in queste condizioni in ospedale sicuramente ci faranno delle domande, qui è meglio che non... Cioè, io propongo, io dico, siccome se andiamo in ospedale ridotti così, no, la polizia viene chiamata. Se ho capito bene, Katta può curare, quindi esatto. Va bene. Dobbiamo andare in un posto sicuro qua vicino, andiamo a casa mia. Sì. Io stavo volevo proprio in cantina, che volevo anche prendere il fucile io, tra l'altro. In cantina d'Arci, che è un po' più lontana. Sì. Va bene. Vi dirigete lì, però Ema non viene. Chi se ne frega di Ema, l'importante è che ci sia Giulio. No, Giulio. Katta per curare quelli che stanno male, cioè io, Giulio. Tu hai preso mica troppo. Sì, svenuto. Ema, se qualcuno ti chiede qualcosa, magari, di che, non so. Ma io non so niente, non dico niente. Dici che, cioè, non, di che non conosci questa gente qua che di cui troveranno i corpi, semplicemente. Vabbè, ok, vediamo. E stai attento però, Ho capito, vabbè, tutte le volte che vi chiamo succede un casino, va bene. mi spiace, ma cazzo mi ha fatto. Ho capito, se non avessi dato fuoco a casa mia. Ho capito, ma che cazzo ne sappiamo noi che Giulio può sparare fuoco e comincia a dar fuoco sì, a sì, ma poteva... Vabbè, potevate fare in altro modo, ok, comunque. Potevamo fare in altro modo. Scommetto che l'unico modo era dar fuoco a casa mia, Evidentemente sì. Sì. Non è che io mi sia divertito a usare il mio potere, non volevo usarlo. Comunque, raga, dobbiamo ritrovare il tizio che ci ha venduto la droga dell'ippopotamo. Lo voglio nella squadra. L'ho usato perché c'erano due tizi armati e sia Katta che Shio avevano avuto la brillante idea di sparare in aria. Va bene, Giulio, il casino ormai l'hai fatto, andiamo. Ci sono altre case da distruggere, andiamo a dar fuoco alla cantina di aria. Mi dispiace averti bruciato casa, non avrei voluto farlo. È vero, tipo, e andiamo a casa da me. No, andiamo in cantina da me. Poi guardiamo Giulio. No, andiamo a casa di me. No, sono tanta roba che posso buttare. Non mi va neanche di provare. Vi dirigete verso casa di Arci. Mi fate tutti un tiro di sociale per evitare di dare nell'occhio, soprattutto Sceo svenuto. Sceo tira il D6 anche lui. No, nel senso 3. Beh, diciamo uno. Mentre lo cantiamo gli diciamo: è l'ultima volta che bevi così tanto. Metti un po' di luce. Aspetta che chiamo io la polizia. Arci, quanto hai fatto? Io ho fatto 2. Okay. Intanto che camminiamo, comunque io dico: rega, basta risse per i marocchini dopo essere ubriachi. Vedete una folla? No, vedete alcuni curiosi che marocchini. Si fermano. e vi guardano strano. Un paio di persone vi chiedono se è tutto a posto, se devono chiamare l'ambulanza. No, grazie, è tutto a posto. No, è un travestimento. No, io dico, no, no, sì, grazie, tutto a posto, stiamo andando in ospedale. Ah, ma volete che chiamo l'ambulanza? Volete un passaggio? No, no, abbiamo già chiamato noi. Vi faccio vedere il cellulare di Giulio. No. Ok. E va bene, arrivate alla cantina di Arci, scendete, chiudo. Ditemi voi. Adesso chiedo a Kat, cioè, vedi così, prendere il ghiaccio. Sì, io posso andare a prendere su della roba, però dico, cioè, l'obiettivo è che Kat curi tutti noi con calma. Va bene, solo che intanto... tu Kat, per curare la testa non puoi farlo. Sì, cioè, se la mia è sana. Esatto. Quindi no, quindi prima devo curare la mia. Esatto. No, più che altro, Sceo, posso provare a usare le mie stupende conoscenze. Perché dobbiamo aprirgli quella cazzo da medico. Usa OB internet per sapere. Oh, se no gliela brucia, facciamo presto. Perché è svenuto, qual è il suo stato di salute. Cioè, vuoi fare un tiro di medicina per sapere il suo stato di salute? Sì. Cioè, oddio, di solito come uno è posso... tutto a posto. Posso farlo anch'io? Sceo è morto. Posso farlo anch'io? È morto. Sì. Tre. Boh, sai, ti sembra che sia vivo? Cioè, il battito è normale e non ha subito colpi evidenti. Più che altro non dovremmo togliergli la gamba. Io vado a prendere il fucile d'assalto e dico male. Potrebbe fargli un po' male. No, potremmo portarlo da lì. Scusami, tu che hai OB internet, non sai come aprire una gamba bionica. Ci ho guardato. Dove li vezzi così in un angolo? Vabbè, dai, se la riscaldiamo abbastanza, dovrebbe friggersi la roba che c'è dentro. Sì, diamo fuoco. Diamo fuoco a Sceo. Sei la tua cantina? No, io... lo buttiamo nel pozzo infuocato. Si crea un no, io volendo posso. Tandori. Uno show tandori. Posso mutarlo. Cioè zittirlo? No, la gamba. Mutare la gamba. Basta. Usa il suo potere, che non è OB internet. Che non è OB internet, che quello è il vero potere. Sennò sì, sennò possiamo... Il mio potere è quello di copertura. Funziona okay. Sulla... Il problema è chi ha questa cosa. Le aveva solo Claudia. Come intendi usarlo? Cercare di estrarre questo coso, questa spia, questa cimice. Però funziona solo su roba vivente, la tua e la gamba non è vivente. Infatti ti chiedevo se... Salla, scusami. Volevo fare un tiro io. Se analizzando la gamba di Sceo, a parte i punti in cui diciamo è stata attaccata al moncone che aveva, se ci sono per caso dei piccoli o tagli o cuciture, diciamo, non motivate, tipo, non so, l'altezza del polpaccio, della caviglia, come se avessero appunto inserito un qualcosa dopo. Ok, allora, per prima cosa devi spogliare Sceo. Beh, lo faccio volentieri. Vabbè, basta tirargli su il pantalone. Chi gliel'ha montata la gamba, non quello che gliel'ha fatta, immagino, vero? Allora, potremmo chiamare Liva. No, gliel'ha montato il medico in ospedale. Lì va consegnato la gamba. No, più che allora, chiamarlo andiamo. Se gli tiri su i pantaloni, non vedi niente. No, gli tiro giù i pantaloni. Giù i pantaloni, invece, vedi una sorta di cicatrice a livello dell'inguine. Però non è stata. La gamba dov'è che si attacca? A livello dell'inguine. A livello dell'inguine. Ma la gamba l'hanno attaccata a livello dell'inguine, la gamba? È attaccata tipo da qua. Proprio da su in su. Gamba, sì. È una gamba. Ma io pensavo che lui si fosse distrutto solo dal polpaccio, ginocchio così, non fino all'anca. E io pensavo di allora tolto tutto e ha rimesso tutto. Okay. Cioè cosa c'è? Una cicatrice tipo recente? Sì, è come se fosse una cicatrice molto piccola, però non è... Se la tocchi e ci guardi bene, non è pelle vera, sotto. Ma non okay, è una cosa se tocco, che lui può togliere. Se tocco con le mani sotto, mm-hmm. spingendo, sento come se sotto questa pelle sintetica ci fossero delle... Senti come ci fosse un osso, che in realtà però non dovrebbe esserci, perché sarebbe come se fosse un osso sotto pelle. Probabilmente è qualcosa di metallo. E sento se ha una forma tipo quadrata, tonda, o comunque come se potesse essere una specie di mini radio trasmittente di cosa inserito. Un comlink. Un comlink. Tira. Niente. Due. Ma, non lo so. Cioè, riesco a sentirne il perimetro, diciamo, okay, di questa non cosa. Non pensavo che la gamba fosse così... No, tu senti come se fosse qualcosa di duro sotto... sento duro, no? Ah, quindi mi sembra una cosa enorme come zone. Sì, cioè, nel senso, sono diversi come se fossero diversi tendini o diversi... Beh, raga, possiamo anche provare... A portarlo da lì, è l'unico. Stanno facendo dei danni. Oggi che giorno è? Prendi sto cazzo di fucile, ci laviamo. Settembre, abbiamo fatto rinvenire o no? No, è ancora svenuto. Respira? Sì, è vivo. Ok, vai. Sì, comunque allora, no, curiamoci ancora per oggi. Chiamatelo. No. Ah, io sì. Noi tutti, cioè, almeno la testa dobbiamo curarci, perché abbiamo la faccia tipo mezza morta. Allora. Oi. Quanto è passato dalla colluttazione? Cosa c'è? Chiamatelo. No, chi chiamatelo? No. Cosa chiamatelo? No, che chiamiamolo? Ci andiamo lì con le pistole, sti cazzi. Dovremmo sapere sì. Se è in negozio prima. Lui è quasi sempre lì. No, non ti ricordi cioè che giorno è? È mercoledì 14. Ti ricordi che lui diceva che sta... Veramente è giovedì 15. Ah, ok, siamo già giovedì. In teoria lui è in Milano, quindi possiamo solo chiamarlo. Però è sera, sono le... saranno le 23. Sono le 23 che lui lavorava a Milano nella settimana. Sì, vi siete visti a casa di Ema alle... Ah, è vero, il 22. A maggior ragione dobbiamo chiamarlo per forza. E chiamiamolo. Okay. Ormai è quasi venerdì. Lo chiamiamo. In viva pronto? Voce. Faccio... Pronto, sono Francesco, il ragazzo che si è presentato, che ha fatto la missione con gli altri amici. Ah. Tutto bene? No. Vago. Sì, no, dico, abbiamo riscontrato un problema alla gamba. Mm-hmm. E riuscirebbe a controllarcela o stanotte stessa o domani in giornata? Stai cercando di dirmi che non ha fatto un buon lavoro? No, qualcuno l'ha sabotato. O qualcuno, esatto, qualcuno l'ha sabotato. Tira sul sociale. 6. Ok. E vengo io dove siete o venite voi? Non sai, posso anche dirgli incapace! Sì, vengo a sistemarlo. Vengo io da voi o... Sì, sarebbe meglio. Ok, e dove siete? E gli dico l'indirizzo di casa mia normale, però. Ok, e devo suonare perché? E mi richiami. Va bene. Arrivo tra... Boh, sono qua di fianco, arriverò tra 10 minuti. Ok. Porto gli attrezzi e vediamo. Qualcuno sta fuori a guardare? Sì, quando deve arrivare. No, prima. Cioè, sì, prima che arrivi. Cioè, adesso qualcuno di noi sì, esce. Sì, esatto. Sì, vado. Sì. Magari chi non è ferito. Sceva. Vai, vado io. Ok, io se voglio mi posso cambiare con tattico. No, no, diamo io a te. Okay. Beh, i Vez sanno come un pesce, quindi puoi andare tranquillo. Diamo un pesce, lui. Sta cercando di evitare di prendere danni per evitare di attivare il suo potere. Io no, un occhio nero che non basta. Sapendo che ho il potere faccio come farei normalmente. Se è passata un'ora è un modo carino per dire dall'ultima attivazione riprovo a curarmi la testa. Vabbè, 40 anni è passata un'ora. Devo dire che sono bello messo male. Ci mettiamo 50, sei morto. Uno dal portico. Ce l'hai alla fine giù il pronto soccorso, cerotti di roba sì. Per... mi incerotto un po' la faccia e... Ok. Tamponarmi le ferite. C'hai il ghiaccio? Cosa devo fare? Adesso devo fare questo. Sì, la prendo qua. Niente, però hai fatto bene a farlo perché se non lo fai le ferite si infettano e ciao. Cazzo vuoi dire? Non lo so. Amico vostro, eh? Ah, tu dici quello che dici Berti, tipo, non lo so. Perché Bini? No. Comunque lo vedo solo registrato come Bini. Berti. Comunque vi consiglio di farlo anche voi. Il suo numero. Io ce l'ho il suo numero, infatti se clicco sopra mi dice Berti, però qui mi fa leggere Bini. Ma dov'è che vi ha scritto? Bini, su Casa Blu. Ah, non ci sono su Casa Blu. Easy. Perché tu non ci sei io, sì? Il gruppo che ho creato? È perché mi avevate rotto il cazzo ed ero uscito. Salutiamo tutti per la città di Casa Blu. Vabbè, no, l'ho proprio scritto, ho scritto mi avete rotto il cazzo. Beh, è un gruppo così inutile, cioè nel senso che sì, mai nessuno. L'ho creato io tanti anni fa. No, perché io provavo a invitarvi, ma non mi cagavate, quindi ho smesso. Poi ho riconosciuto l'errore e sono uscito. Su Underwear rispondiamo. Sì, per Dungeon sì, però tipo per uscire la sera così lì, cioè tipo alla 50ª volta che scrivevo e tipo nessuno, no, miglioravate tutti. Tu scrivi per uscire su Thunderwave, rispondo. Cioè dico proprio il messaggio, quindi mi ha ragione Salla fondamentalmente. No, certo che ho ragione io. Che problemi hai? Easy va più, easy va meno. Ok, chi è sopra? Io e Vez. Sì, uno di noi sta dal portico e l'altro starà di fianco dalla casa sul lato della strada, non quella che porta alla cantina, direi. Ok, vi nascondete? Ma no, uno sta lì casualmente, guardiamo il cellulare, cioè facciamo... Io sto dietro a una colonna. Ah sì, è vero però, perché lui si conosce, sì. Sì, mi nascondo, cioè voglio andare nell'occhio, ecco. Ok, tira su riflessi. Avrò... Ah no, è estate ancora. E poi è notte, sì, tira. Non so perché, a quanto pare il cellulare due ha unito anch'io i numeri di telefono della Bini e di Bertinelli sotto Bini. Cioè, è giusto. Perché era rappresentante di classe. Sì, dai, Giulio, questa poi... Quando vivi in italiano, tu, Giulio? Cioè, io ero rappresentante di dipartimento. Ah, io ero rappresentante di dipartimento all'università, ma non avevo il numero del capo dipartimento. Infatti non avevo il numero del preside. Perché non sei imbazzato. Va bene. Devi mettere i contatti, Giulio. Esatto, mettilo in curriculum. Sei utile. Mettilo su LinkedIn in curriculum. Certo. Rappresentante studenti quinta L, no, quinta che classe. Ma allora potrebbe metterlo nei vari, potrebbe metterlo, sì. Che lettera avevamo? L. L, sì. Ok, che sono passati degli anni. Raga, io non mi ricordo niente. Va bene, comunque. Ero ubriaco. 5 anni ubriaco. Mia classe. Quindi, Salla, quindi? Dicevo, se vi nascondete tirate sto cazzo di dado di riflessi, sennò... Abbiamo fatto due. Ah, due. Scusate. Sono nascosto dietro un coso stradale, un segnale così. No, vedete... però guardiamo il cellulare, proprio così. Vez, tu che sei dalla colonna. Yes. Si guarda nel cellulare con evidente aria. Dopo una decina di minuti vedi che si avvicina Liva con una tipo una valigia, una roba abbastanza grande. E si avvicina verso la casa, poi si volta verso di te, ti saluta e si avvicina verso di te. Quindi dove devo andare? Ciao. Ah, salve. Abbiamo un attimo il mio amico per dirgli di aprire. Ah, tutto... va bene. Chiamo Archie. Pronto? E Archie, Liva è qui fuori. Come procediamo? Fallo venire pure. Va bene. Tanto perdi, dirci tu. Ah, guardi, allora mi segua. Avete fatto un club segreto? Che cazzo fate? No, però non so perché, sa, comunque vista l'ora non volevamo disturbare, allora non sapevo se era. Ho fatto un club segreto, parla quello che spaccia droga nascosto in Viago Basso. Io lo faccio perché spaccio droga. Tu lo sai come... No, adesso anche noi grazie a te. Comunque. Vabbè, lo dico la carta non è stato notato per ora. Cioè, ok. Kata, tu stai lì dove eri? Non so, se qualcuno mi dice che succede... No, ma quando vedi Vez che parlo con lui... In via diversa. Allora. Sì, ma presentami a Vez. qua c'è la porta, qua c'è la... Allora, ascolta un attimo, qua, questa è la porta, questo è il portico, tu sei qua e la stradina delle cose è qua, tu sei qua. Ok. Quindi io e Lima siamo qua che siamo andati di qua, tu sei qua e puoi fare quel cazzo che ti passa. Sì, ci vedi, però puoi fare quel cazzo che ti passa. No, scendo anch'io. Ok. Potrei averne uno fuori in caso di necessità. Cotta! Forti! Va bene, scendete tutti e tre. E quindi dov'è il vostro amico? Sarà lì. Dove l'abbiamo messo? Okay. Sarà sdraiato su una panca. E qua c'è stato... Perché è svenuto? Non lo sappiamo. Va bene. Il nostro amico ha notato questo taglietto all'inguine. Dove hanno attaccato la gamba. Ma pensate che sia svenuto per... Pensate che sia svenuto un taglietto diverso? No, è di dove c'è l'attaccatura della gamba. Crediamo che ci sia qualcosa che fa, non so, una sorta di interferenza lì all'interno. Non abbiamo capito bene, però credete sia svenuto per la gamba o... Non lo sappiamo. Però potrebbe essere. Va bene, ci perché ha detto che gli dava fastidio la gamba, cioè, gli dava fastidio, vibrava. Tira sul sociale. Io? Tre. Ok, va bene, ci guardo. Vedi che apre la valigetta e ha un sacco di strumenti dentro. Tira fuori una sorta di... tipo... di accordatore, una cosa così. E si avvicina alla gamba, la avvicina sopra e vedete la lucina rossa che passa da rossa a verde. Ok. Verso la cima della gamba. Fa, qua c'è qualcosa che non dovrebbe esserci. E avete aggiunto qualcosa? Avete fatto qualche modifica? No. Assolutamente no. È stata montata da medico che l'aveva in cura. Non sappiamo cosa abbiano fatto quando l'hanno montata. Perché voi vi fidate del professore. Dice mentre prende un coltellaccio e taglia dove c'è la cucitura, cioè dove c'è la cicatrice. E vedete dentro un sacco di fili e di cavi e di pezzi di metallo. Mette una mano dentro e tira fuori una sorta di monetina. Questo è un trasmettitore che avrà messo il professore a questo punto. È quello che temevamo. Sapete che sta registrando adesso? Spegnilo per favore. Sta registrando audio, posizione. Che cosa trasmette questo? Penso che trasmette entrambi. Posso vedere dov'è il ricevente, tipo... se volete. Intanto posso isolarlo. Grazie. Grazie. Vedete che smanetta un po'. Magari dargli una posizione sbagliata, cioè farlo apparire in un altro posto. Tira fuori un tablet, smanetta un po' e fa, non so cosa dirvi. Sembra che il ricevente non ci sia, cioè che stia trasmettendo, ma in questo momento o è troppo lontano dal ricevente oppure non... sta trasmettendo qualcosa che non c'è più. Questa è una cosa positiva. Quindi vabbè, cosa ci faccio? Ma lo teniamo noi, grazie. Lo disattivo? Dai, mi taglio ancora sul testo di scemo. Se uno lo schiacciasse si disattiverebbe comunque, giusto? Sì. No, successo? Puoi tenere anche lui, puoi disattivarlo e tenerlo, magari gli se ne fa qualcosa. Hai trovato il dispositivo? Sì, ha tolto la spia. Che cosa ho detto? Non c'è può essere attaccato a un altro dispositivo questa scimmia. Ti abbiamo solo fatto questo. Penso di sì. Io in realtà me lo terrei questa cosa. L'ha disattivato, vero? Non ancora. No, non è disattivato, l'ha solo isolato. E ha detto che non c'è un dispositivo a cui comunica. Quindi? Che probabilmente è probabilmente quello di... Lui l'ha preso, l'ha messo in una scatolina. Prima ha attaccato a un cavetto e poi l'ha messo in una scatolina chiusa. Io lo terrei. Oppure lo distruggerei. Ha un valore economico sto coso? Sì. No, nel senso, sì, su 2 euro che il mio falegname con 30.000 euro lo fa meglio, è una cosa sofisticata. Non è un cioè è un oggetto abbastanza sofisticato, però niente, cioè ne faccio di più belli io. L'unica cosa è che non avete, cioè dovete saperlo usare, vi manca il ricevente. Voi avete un potenziale ricevitore, qualcosa? Sì, qualsiasi cosa può essere programmata per usare da ricevitore. Quanto anche il tuo tostapane. Quanto no, costerebbe nel caso? Ma un oggettino così, una settantina di euro. È un investimento che io farei. Sì, ne pensavo molto di più. Però no, è fatto in casa. No, scusi, volevo dire, se noi tipo le chiedessimo di abbinarcelo a un ricevente. Sì, quanto però credo. Devo riprogrammarlo, perché sennò chi l'ha messo saprebbe come raggiungerlo. Certo. A quel punto forse conviene prenderlo uno nuovo. Se volete ve ne vendo anche uno nuovo. Quanto costerebbe? Forse costa meno. Dipende che cosa volete che registri. Ma cosa servono, esatto? Ci può servire in futuro, non abbiamo quasi un cazzo di equipaggiamento. Come ho detto, potete venire da me se volete fare affari. Molti heroes lo fanno. Potremmo avere bisogno del suo aiuto, signor Liv. Non c'è problema, tanto il vostro amico mi deve già un sacco di soldi. Però... Vabbè, intanto ce la facciamo disattivare e sì, ce la teniamo. Ok, lui smanetta un po', vedete che c'è una lucina, un LED piccolino, si spegne, tieni, come sopra il mobile, non può essere attivato. Magari lo sente forse mentre in bagno, l'ha detto, non so, provi a fare una prova, tipo una sorta di percepire intenzioni. Mm-hmm. Per capire se magari è lui che l'ha montato o invece è davvero stata una cosa fatta dal medico dopo. Tira sul sociale. 6. Molto invidio, però. No, raga. Era abbastanza legittimo. No. Ok, quando l'ha trovato, tu c'eri, non eri in bagno, e ti è sembrato sorpresa. Cioè, ti è sembrata sorpresa genuina. Mm-hmm. Vabbè, basta. Mi sparano sopra. Ah. Ok, va bene. Non è, come vedete, la mia gamba è perfetta. Grazie, signor Liva. Sì, gli dico, però avrà capito il motivo per il quale ci avevamo sospettati. Sì, ma è che voi continuate a fidarvi del professore. Io ho detto di non fidarvi del professore. Ah sì, quando c'è lì? L'ho detto al vostro amico lì. Liva? No, te. C'è. No, ad Arci. No, ad Arci non si è andato a passare inizio. Ah, okay. Ce ne siamo resi conto. Lei conosce qualcuno che... Vabbè, era la volta dopo che abbiamo cercato di ammazzarlo due anni nel tempo. Un concorrente del professore. Concorrente del professore. Beh, sicuramente il governo. Mm-hmm. Una sorta di gruppo di heroes che combatte il professore, c'è. Possiamo provare a lavorare. Ci sono anche i gruppetti di heroes, ma stanno tutti molto riparati al segreto. E... Il governo comunque è anti-heroes, no? Il governo è anti-heroes, sì. Soprattutto se non li può controllare. Vabbè, rega. Vabbè. Direi che il signor Liva ha fatto più che... quanto fosse necessario. Ha ragione, alla fine non sarei più nulla. Mettetelo contro il muro. Grazie, signor Liva. Buona serata. Non c'è un problema, come vi ho detto, se avete bisogno di qualcosa, contattatemi. Posso fare anche cose su misure. Grazie mille, signor Liva, lo faremo sicuramente. Grazie. Bene, buona serata. Buona serata. E magari passate da un medico per le vostre facce. Adesso ci pensiamo. No, sono sempre stati un po' così brutti. Va bene, arrivederci. Arrivederci, e se ne va. Arrivederci. Va bene. Fatta, ora stai qua finché non ci curi tutti. Esatto. Passato un'ora. Questa me la voglio perdere. Catta che sviene. Esatto. È passato un'ora dall'ultima attivazione, se non è passata la faccio. Sì, un'oretta, passata. Sì. Quindi per prima cosa mi devo ricurare la testa. Dai, catta. 3. Andare meglio, ma poteva andare peggio. Quindi recupero 20. Poi chi altri è messo male? Io ho perso pochissimo in gamba sinistra e braccio sinistro, quindi non importa che me li ho perso 40 la testa e io 30 la testa. Voi come me è quella la testa. Testa. Le altre locazioni, che... Sala, cos'è che recuperano 10 al giorno? Se sì. Sono medicate, sì. Per non attivare il mio potere in questo modo. Okay. Ma Vez, puoi attivarlo il potere? Ma se che non sono ferito non ha senso che io provi tipo a curare. Ah no, no, certo, sì, sì, sì. Quindi, no. Quindi l'altro che ha messo peggio è la testa di Giulio. Quindi prendo un punto. Cioè, fatica. Non è che lo sto facendo apposta, semplicemente non capita la situazione per ora. E provo a curare Giulio. Vai, tira. Testa. 3. Quindi becco anche 10 danni alla testa. Vabbè. E fai una prova di fatica. E faccio una prova di fatica. Però lo curi, no? Lo curo di 30. Ah, ok. Ma è a posto. Faccio la prova di fatica. 5. Quanto hai di fatica? 2. Va bene. Vai. Mi fai una solo cura alla testa, poi sono a posto. Ti faccio una cura alla testa. Posso aspettare, fatti prima una perché cura. Io adesso in testa ho 20. Curati almeno. Mi ricuro alla testa. Sei manuale, Arci, posso vederlo? Non ho capito. Posso vederlo, manuale? Yeah. Ok, provo a ricurarmi la testa. Guarda com'è. 6. E prendi 3 punti fatica. Fatica, ma in testa sono full. E fai una prova di fatica. E faccio una prova di fatica. 4. Che culo, va bene. Vai. Beh, se no, Kata, se vuoi io mi posso... No, cioè, senso, tu la cosa peggiore che hai sono solo... 30 alla testa. 30 poi ne ho 10 danni al braccio e 20 alla gamba. C'è anche vari gambi in giro. Alla fine. Però 10 punti di vita recupero. Perché io ne ho 60. Cioè, 10 danni alla gamba, tipo, siete un po' indolenziti. Ah, esatto, serve la medicazione medica. Cioè, voglio sminuire i vostri graffietti. No, io non frego. Ho beccato 60 bombe. Sì, cioè, io non di morire noi. Vezzo, io ho 30 danni al busto ancora e 30 danni alla gamba destra. Ma quelli sono e 10 al braccio destro. E vabbè, abbiamo ancora 10 alla testa. È come se tu fossi molto indolenzito, cioè tipo avessi preso una barca di botte e basta. Ho la gamba destra maciullata. Sì, no, tra l'altro in effetti Sceo, qual è la sua locazione più danneggiata? Cioè, dov'è che ha colpito? Sceo non mi ricordo una cosa, perché hai così detto male? Non so, noi abbiamo riaperto gli occhi dal mondo dei cartoni ed era così. Ah, ok, esatto. C'era i cartoni. Ah, ci vedono delle contusioni, delle ferite sul suo corpo nudo? Non da quello che avete visto. O magari è il fumo che gli è entrato nei polmoni. Se mi fai una solo una cura alla testa, poi posso andare a fare della spesa. Giusto per non andare in giro tipo zombie. Sono anche... È anche mezzanotte. Sì. Alla comunale. Aperta 24 su 24, è appiccicata. No, beh, nel senso prendere delle gazze, le cose le trovi se vai. Ovvio, non volevo andare con un tipo che sembra due facce di Batman. È chiaro. Sì, anche perché probabilmente la prossima volta che lo userò sarò, a meno che non aspetto un'oretta, tanto cosa abbiamo da fare, per non arrivare a quarto. Fammi sicuro punto. Allora. Sì, ma devo aspettare un'ora, se la faccio subito becco il quarto punto fatica. Ma allora vabbè, dici, ma le cose gravi di fatica avvengono se hai tipo di 7 punti fatica. No. Siamo al terzo livello comunque. Come adesso, siamo al terzo livello? 45. Noi abbiamo 44. 44 ne ci manca. Saliamo adesso. Io sono 45. Ah, sì, anche io ho 44. Allora tu sei al terzo livello. Che bravo. Va bene, faccio l'ultima cura in testa ad Arci. E una sola donna vi ha legnato di brutto. Va bene. Cos'è questo sessismo? Tipo non super stesse... supereroe. Vai. Vabbè, sei. Avrei voluto comprare 1000 potenziamenti, però. Ti avrebbe legnato uguale, fidati. Sì. Ecco il quarto punto fatica. Prova di fatica. Più che altro dovrebbe capire anche chi è questa personaggio. Passi la matita. Oh. Ok. Dove sono le condizioni? Quanto costa upparlo a medio potere? Sempre, 30. Sì, 30. Senti un senso di vertigini? Mm-hmm. E ti devi sedere da qualche parte. Miglioria. Ok. E ti senti veramente stanco. Forse è meglio se mi fermo per un attimo, ragazzi. Intanto vai in farmacia. Quanto mi hai fatto di fare? Fammi un tiro di mente, Katta. Ah, Katta, Katta, Katta, tiro di mente. La gomma, Vez. Sei. Perfetto. Mi dà la matita, Vez. Anzi, non mi serve, mi serve. Perché se fallivi lo sai che tu hai... L'amnesia, no? Sì. Solo quella? Oh, di sfiga. O me ne sto dimenticando altre? No, hai quella e poi hai il fatto che ti tolga dei punti feriti. Io effettivamente è la prima volta che ho attivato il potere. Succede qualcosa? Sì, i grandi guadagni, perdi tutta la sua fiducia. Penso che mi hai scassato le palle. Un po' di fiducia la perdi. È normale, perché pensiamo che ci nasconda chissà quante altre mille cose. Ho capito, avete anche visto che non è che non lo usavo perché... Però potevi dirci, ragazzi, sì, ho un potere, non lo uso perché è pericoloso. Sicuramente, cioè... sappiamo adesso che almeno sei un eroe, ma sicuramente un eroe di cui non fidarsi in particolare. Non ti ho salvato il culo. Insomma. Ti ho salvato insomma. Il culo, Mi ero anche un po' bruciato. Avete idea di che cosa ci sia successo? Tecnicamente l'unico che ha fatto danni a Claudia è stato Katta. Bellissimo. Beh, però giuro l'ho spogliata. No, però che a parte quello che è successo nella palestra è totalmente surreale, ma ormai non mi stupisco più di niente. Però bisognerebbe capire chi è stato a farci una roba del genere. Voi quella voce la conoscete? No. Direi di no. Era una voce di uomo, vero? Sì. E non si riusciva a percepire tipo le voci di uomo. Faccio, uso il mio hobby. Okay, un coetaneo o un vecchio? Coetaneo, più o meno. Faccio una ricerca su internet per cercare... La voce? Simili. La voce? No, questa cosa di ghiaccio. Simili. Tira perché... odio internet. Ma quale ci sta invece? Così vedo anch'io che cazzo... Vedi un po' di storie di invasati che pensano di essere stati in altre dimensioni, universi, e anche un sacco di esatto, e anche un sacco di droghe che vengono utilizzate per questo fine. Bene, Salla, io vado lì in farmacia, intanto che loro cazzeggiano e cerco la droga. Compro pomata, un po' di gazze. Sì, dammi un pezzo. Ah, boh, saranno in totale una ventina di euro stando larghi. Va bene. Sì. Va bene. Ma è vero. Cosa che costa la pomata lì? Infatti stavo pensando a quello. Sarà una decina di euro, poi il resto in garze. Il Voltaren per i punti. Sì. Sì, anche ustioni, cose varie. E poi torno giù. Ok. Altro? Sì. Io volevo fare delle spese in Exp. Sì, anch'io. Vabbè, me le dite dopo. Intanto possiamo chiudere la sessione. No. Quello che succede è che torna Arci. Siete lì che parlate tra di voi. Sì. E sentite di nuovo nella vostra testa. La voce. Potete anche ringraziarmi. Non serve che mi dite grazie. Esatto. Ci piacerebbe farlo. No, certo, se conoscessimo il tuo nome. A chi dobbiamo dire grazie? Certo che ti ringraziamo. Questo Come fai a conoscerci? Come vedete avete degli alleati ora che siete contro il professore, però fate attenzione perché è molto potente. E quindi vogliamo una mano, cioè siamo disposti a essere assunti. Starò nei paraggi nel caso vi servisse di nuovo aiuto. Chiamatemi Void. Void. E finisce. Ciao. E così si conclude l'ottavo episodio di... Io. No, il nono episodio di Unstructured Heroes. Io non ho limiti di tempo, ma se Salla ha finito così la sessione, finisce così. Sì, ci sta. Adesso vi do i punti esperienza. Sì. Mi dite come li spendete. Finiamo senza un colpo di scena, quindi non siamo pronti. Sì, esatto. Cioè, c'è un po' un minimo di colpo di scena. Voi, sì, è vero. Voi, staff. Indegno! Noi siamo il Void Staff! OP! Se volete, la prossima è da adesso in poi. Ma la capiamo in tre, sta cosa. LOL. Sì. Però no, in realtà è preso da LOL, ma è Staff invece che Staff. Stuff. Sì. Esatto. Roba. Roba. È proprio roba. Ok, dicevo, prendete tutti 8 punti esperienza. E vi volevo dare delle abilità, ma non so cosa darvi, quindi non ve le darò. Ho fatto medicina. Io ho fatto un pallone da basket. Da gatto ho usato la spada. Vabbè. Ok, se volete dirmi l'unico che avrebbe fatto qualcosa... No, neanche. No, nessuno di voi merita un punto abilità. Poi non lasciamo Sceo troppo indietro. Quanti punti esperienza ha Sceo? No, lo stavo pensando. Per fare in modo che se uno è assente non rimanga troppo indietro. Non state assenti. Non si potrebbe dargli tipo un forfè. Tipo un po' di punti expo. Cioè, giusto per non farlo rimanere indietro, chiunque sia. No, secondo me ci sta, semplicemente bisognerebbe magari cercare anche di venire un po' incontro a Sceo, che lui vede un po' mai, semplicemente questo. No, ok, ma proprio perché se un Sceo non può mai, però noi siamo, quando ci becchiamo siamo in 5. No, allora, no, in realtà, vabbè, che non è, qua non gli pesa troppissimo, pesa un po', ma non tantissimo, di rimanere indietro. Cioè non è tipo D&D, che se uno livella prende punti ferita, bonus per colpire, eccetera eccetera. La metà delle cose sono molto situazionali, quindi sì, no, era una proposta. Ok, mi dite come se volete spendere degli exp. Potete spenderli anche in gioco volendo. Io lo spendo adesso, ma dove si segnano le cose che si prendono? A me piace spenderli in gioco. Se ne prende un altro, lo spiri. No, i potenziali prendono dei potenziamenti genici. Sceo ha detto hai 35 punti, punti esperienza? Sì. E voi ne avete? 44. 52. 52. No, perché ne hai presi la volta. Sono 52. Io sono 53. 52 contro 34. 5. Guarda, vabbè, siete a livello 3 e lui è a livello 2. Sì. Voi potrete prendere un potere medio e lui no. Però se uno prende un potere medio aumentandolo, aumenta anche il difetto, giusto? Cioè, sto assente tre volte. Due volte. Solo? Dove tre? Due. Sono due solo. Salla? Boh, secondo me sì. Io volevo prendere. Perché 35, noi abbiamo 52. Eh sì, 35 più 8 di questa che ne avrebbe presi, fa finta 43, più altri 7. 2. Ha perso accordo del Garpez e questa qua. Ah già. Va bene. Io voglio prendere due potenziamenti nominali. Se ti ricordi ti costano in meno. Un punto di esperienza in meno, quindi costerebbero 10 l'uno e costano quindi 18 totale, cioè perché punto, quindi 9, quindi 18. Uno è durata estesa e l'altro è frequenza migliorata. Mm-hmm. E adesso la prossima puntata sarà Legione. Io Salla prendo controllo migliorato e resistenza mentale. Solo che resistenza mentale era quello di cui ti parlavo del D4. Ti volevo chiedere se quando lo tiro e viene uno, se prendo la media o se posso ritirarlo, come devi farlo. Tu intanto tira. Ok. Cosa fa? Un potere nuovo? Chi? Arci. No, punti psiche. Uno. Vabbè, aggiungi di due. Quindi 8 per 29. Il controllo migliorato? Che comunque qua anche già uno in più è tantissimo. tra il migliorato mi fa aumentare il dado controllo a D8, che è quello che devo tirare per psicanalizzare l'altra, no? Sì, e anche sì, ma è... Comunque considera che qua anche un più uno è tantissimo. Se vedi tipo Oddis nell'altra campagna è forte. Non ho capito, hai laggato un attimo. Ho detto, in queste regole anche un più uno è fortissimo. Se vedi Oddis nell'altra campagna, il più uno che ha gli dà un botto in più. No, sì, adesso in questo caso è più comodo da usare, che puoi usarlo più spesso. Sì, vabbè, poi hai anche un più 2 in tutti i tiri di... Cioè, se provi un tiro di psiche. Cioè, un tiro di... Di mente. No, ma anche se aggiungi la psiche al tiro, ti dà un più 2 in più e tantissimo. Sì, no, infatti, no, sì, certo. Sì. Va bene. Possiamo chiudere il podcast, salutare gli amici del podcast. La sessione è stata breve. Ma intensa. Adesso sei un attimo matito, due secondi. Allora, prossimo appuntamento è o lunedì o martedì oppure la settimana dopo. Allora, in realtà a me martedì andrebbe bene, ma immagino che non vada bene a voi altri. Martedì 7 per me non c'è problema, per voi. No, non ci sono. Può far solo tipo dalle 9:30 alle 9:15, okay. Beh, Arci potrebbe dalle 9:30 alle 11. Io martedì non ci sono, sì. Perché arriva Federica. Potrei. E dopo non potrai Giulio comunque. No, sabato no, aspetta, possiamo giocare un attimo, scusate. Al vivo. No, sabato lui non può il pomeriggio. Però posso dopo pranzo, però più tardi. Oh, raga, giovedì, dopo la mia laurea. Certo. No, una cosa, scusate, martedì... Allora, martedì non può Giulio. Arci potrebbe dalle alle? Cioè, se si inizia a giocare alle 9:30 puntuali, cosa che sai che è impossibile. Beh, sì, in realtà è possibile, perché possiamo cominciare anche un po' prima, noi, in realtà. Se invece facessimo tipo la catta... arrivi e come dicevamo una volta. Beh, sì, il discorso è che se io devo venire da Kat e tornare per essere a casa alle 11, se non ci puoi far arrivare qua prima. No, infatti il discorso dico che se devo venire da Kat per poi giocare un'ora, a quel punto ti rimando, cioè pacco. Niente, se facessimo qua. Cosa è successo? Ci sta condividendo il suo schermo. Sì. Una scimmia, un gattino. Non ho visto l'ippopotamo. Il bassotto. La talpa, bello. No, cosa stavo dicendo? No, io martedì non mi alleno, però alleno il tipo. Quindi farò una cosa e l'altra, finisco tipo alle 8:30, mangio. Potrei essere da capo alle 9:30. Aspetta, non ho chiuso il podcast. Dicevo, per gli amici del podcast, ciao. Sì, vabbè, tanto prendiamo, vediamo se proviamo, vabbè. Vabbè, intanto a risentirci. Vabbè, gli amici del podcast non sapranno quando ci troveremo, forse sarà martedì, forse sarà sabato. Il prossimo sabato. Non può. Beh, il prossimo... No. Me la butto lì, Venerdì sera, venerdì sera. Recuperi. Venerdì sera, perché se invece dopo il Giappo non nerdiamo? Giappo e Urban Heroes? Oppure giovedì. Ma no, giovedì. Venerdì sera, sì. Giappo e quando siamo lerci giochiamo. Credo che Sean non ci sia sicuramente. No, forse sì, però. No, lui ha detto che lui c'era per il Giappo. Va bene, allora ci vediamo martedì o più probabilmente venerdì. Venerdì 10. Ah, no, perché ok. No, sì, volevo venire in palestra. Però dopo il Giappo. Sì. Ah, era per farvi vedere casa mia, ma vabbè, se non possiamo fare anche... No, possiamo fare anche da te. Ma c'è Salla. Lo so, però non possiamo fare la diretta. Però possiamo fare il podcast. però non possiamo fare la diretta. Beh, non abbiamo fatto la diretta neanche un altro Star Wars. Lo so, ma quella era la cosa tra di voi personale. Un picnic. Per dire la diretta. Gran sessione, tra l'altro. Tra l'altro. Esatto. Fare, se per dire entri col tuo account sul mio cellulare, usi i miei dati, possiamo usare la diretta con connessione del cellulare. Sì, però quanto usi? No, vabbè, insomma, intanto saluto gli amici del podcast. Vabbè, venerdì sera non è ancora chiuso, cazzo, chiudi. Ciao.